Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Messaggi ce ne sono pochi da dare a parole, sono messaggi da dare sul campo, forti, che devono trascinare la gente a portarci a questa piccola impresa. Le parole ormai le abbiamo adoperate tutte in questi giorni e adesso penso che sia arrivata l'ora dei fatti. Eh sì, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è l'ora decisiva. Come ora, diciamo, siamo un po' in anticipo con Effetto Notte, non eravate abituati, di solito si inizia alle 21, però oggi è una puntata speciale questa di Effetto Notte, perché si inizia prima e si finisce dopo, nel senso che andiamo avanti da adesso fino alle 23 se tutto va bene, ma se l'Italia dovesse disgraziatamente perdere, la nazionale, ora decisiva, diceva Buffon, no? C'è la sfida tra Italia e Svezia a San Siro ed è la partita che deciderà, insomma, se l'Italia si qualificherà per i mondiali di Russia 2018. Quindi, vi dicevo, abbiamo iniziato un po' in anticipo e andremo avanti fino alle 23. Se poi disgraziatamente, dicevo, l'Italia dovesse perdere, andremo avanti anche fino a mezzanotte. Speriamo di no, però sono aperti anche poi i microfoni per voi al numero verde 800 24 00 24, dalle 22 però, Intanto voi fate le vostre riflessioni e cercheremo anche di appassionare coloro che ascoltano sempre Effetto Notte, magari c'è qualcuno che non è particolarmente appassionato di calcio. Se volete fare anche delle domande, avete dei dubbi, anche, dicevo, delle domande elementari come spesso vengono a me sul calcio, fatele tranquillamente. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte che è lì per voi, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Intanto, visto che la partita è già iniziata, colleghiamoci immediatamente con il nostro Dario Ricci, che è proprio lì a San Siro. Caro Dario? Sì, quinto di gioco, Roberta, Italia in attacco, risultato ancora sullo 0-0, confermate le indicazioni della vigilia, il tiro intanto di Florenzi, una delle novità schierate questa sera da Ventura a centrocampo insieme al romanista, anche il napoletano. Successo qualcosa? Bagno di folla, comunque l'avete sentito, a San Siro si parla prima di 70.000 persone, poi 72.000, l'ultimo numero era 74.000, insomma un tutto esaurito, chiaramente potete capire per gli appassionati è una partita che deve decidere se l'Italia sarà o no dentro i mondiali, che tra l'altro se non lo fosse sarebbe la prima volta dal 1958, quindi immaginate, sono 60 anni che non succedeva, che verbo devo usare non lo so bene, con tutti gli scaramantici che ci sono, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Per la formazione poi ne parleremo con i nostri esperti di calcio, di tutti convocati, tutti i giorni sapete la trasmissione qui su Radio 24 dalle 14 alle 15. Vediamo, ci siamo ricollegati con Dario Ricci, ancora non ce l'abbiamo fatta, immaginate naturalmente che enfasi, che confusione, la folla che c'è, anche avete sentito le urla, le grida di entusiasmo e anche di incitazione in sottofondo. Ci sono gli svedesi tutti in giallo che già oggi avevano colorato le strade di Milano, insomma, da questa mattina. E poi c'è Ventura che anche nei giorni scorsi si è detto, insomma, sicuro, convinti che andranno ai mondiali. Chiedo ancora se Dario Ricci è in... non ci riusciamo a collegare con Dario Ricci. Allora direi di partire tra pochissimo con i titoli. Sapete, la puntata naturalmente per lo più prosegue tradizionalmente, come sempre, io vi riassumo la giornata, come tutte le sere dalle 21 alle 22, se volete capire che cosa è successo di importante in Italia e nel mondo, e poi ci saranno vari ospiti, parleremo anche molto di politica, visto che oggi c'è stata la direzione PD, quindi dobbiamo capire in questa riunione effettivamente poi che direzione prenderà il Partito Democratico, perché uno dei primissimi problemi è quello delle alleanze, visto che la legge elettorale Rosatellum, che è stata approvata di recente, spinge i partiti a coalizzarsi, no? Visto che è in fondo soprattutto un proporzionale, un misto questa legge, ma soprattutto proporzionale. Allora, io direi che tra poco potremmo partire. Abbiamo Dario Ricci? Ce l'abbiamo, finalmente, quando si temporeggia. Dario? Subissato dalla folla, eccoci di nuovo. Ciao Dario, quindi? Eccoci qua, siamo all'ottavo minuto, azzurri che reclamano nei confronti dell'arbitro Laozze, c'è l'ammonizione per Giorgio Chiellini, azzurri che avevano chiesto il calcio di rigore perché c'era stata una penetrazione in area svedese di Parolo, atterrato da uno giocatore da uno dei difensori svedesi, contrasto però giudicato regolare dalla OS. Gli azzurri hanno protestato e per proteste viene ammonito Giorgio Chiellini. Risultato ancora di 0-0, ma Italia che sta producendo gioco in questa fase iniziale, in particolare sulla destra, come dicevo, con Barzagli molto attivo nel chiudere su Fosberg e su Toivonen, a rilanciare l'azione, in particolare appoggiando il gioco su Candreva, che ha già avuto un paio di spunti interessanti. Al quinto minuto un tiro dal limite di Jorginho finito abbondantemente al lato, ma insomma è un'Italia che sta provando a fare la partita contro una Svezia comunque quadrata. Adesso arriva anche l'ammonizione per Johansson per un fallo su Gabbiadini. Stato quel Johansson che proprio ha siglato la rete decisiva che finora sta decidendo questo playoff, cioè l'1-0 di Solna, pur con la importante deviazione di De Rossi. Sì, Dario, prego. Scusami, ho visto l'uomo mascherato, c'è anche in campo, come mai? L'uomo mascherato è Bonucci, come ben sai. Bonucci, dopo 30 secondi della partita d'andata, in un contrasto con Berg, si è fratturato il naso, per cui, essendo un uomo difficilmente sostituibile nello schieramento azzurro, è costretto a giocare con una maschera protettiva per il setto nasale. Senti Dario, dicevo bene che insomma, si spera naturalmente che la nazionale si qualifichi per i mondiali. Se non succedesse, disgraziatamente, sarebbe dal 58 che non succede una cosa del genere? Sì, noi abbiamo mancato solo l'edizione del 58 dove venimmo eliminati da Irlanda del Nord. Non partecipammo neppure all'edizione del 30, ma perché non rispondemmo all'invito della Federazione Internazionale, della Federazione Uruguagia, che ospitò quell'edizione. Quindi sono 60 anni che andiamo costantemente al mondiale e non sarebbe questo il caso di ripeterci. Attenzione, un passaggio rischioso di Jorginho nei confronti di Buffon, stava intervenendo Berg, fortunatamente il capitano azzurro, il portiere della nazionale e della Juventus, ha salvato. E adesso continuiamo a giostrare il pallone con Bonucci all'altezza dell'area di rigore, il lancio in profondità verso Parolo, che non stop a seguire, che permette al giocatore della Lazio di lanciarsi sulla destra, l'intervento del difensore svedese, ma palla che ora arriva a Gabbiadini sul lato sinistro, il cross chiude Lindelof e sarà calcio d'angolo per gli azzurri. Un'Italia che c'è questa sera, sta producendo gioco pur contro una Svezia molto attenta, come già lo era stata all'andata, e ben preparata fisicamente, perché anche in questa fase iniziale della gara gli svedesi si propongono un pressing che mette in difficoltà la fase di costruzione del gioco degli azzurri. Seguiamo questo calcio d'angolo, Gabbiadini, il pallone a centro area, la deviazione di Barzagli sul fondo, sarà rimessa dal fondo per la Svezia, anzi no, calcio di punizione per l'intervento composto di Barzagli sul pallone. Allora il portiere Olsen, no, sta facendo la finta, perde un po' di tempo chiaramente facendo finta di non aver capito che era una rimessa dal fondo, ma ci sta, perché ci sta. Chiaramente gli svedesi vogliono soprattutto difendere il gol che avevano fatto all'andata al mondiale. Caro Dario, ci dobbiamo temporaneamente lasciare, ma ti lasciamo lì a seguire ovviamente la partita. Per noi ci aggiorneremo di tanto in tanto, poi adesso riprendiamo dalle 21 tradizionalmente, ma sempre con queste incursioni, e poi andremo avanti sino a 23 e forse pure fino a mezzanotte. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci sì, qui, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, oggi abbiamo aperto con circa una dozzina di minuti di anticipo, perché come vi dicevo è una puntata speciale questa di Effetto Notte. Seguiremo a fasi alterne la partita in corso per le qualificazioni mondiali della nazionale contro la Svezia a San Siro, 74.000 persone che con entusiasmo stanno seguendo questa partita decisiva, perché se l'Italia non vincesse chiaramente non sarà ai mondiali. Si diceva con Dario Ricci, che è lì a San Siro per noi, il nostro Dario Ricci, che non succedeva dal 1958, quando fummo squalificati dall'Irlanda, buttati fuori dall'Irlanda del Nord. C'è stato un grande boato di entusiasmo all'inizio della partita a San Siro per la nazionale, però pare che ci siano stati dei fischi per Ventura, per l'allenatore della nazionale, che forse, diciamo, non so, poi chiederemo ai nostri esperti se effettivamente in bilico, non amatissimo, Comunque dopo andremo avanti sino alle 23, soprattutto dalle 22 alle 23 potrete fare le vostre domande, i vostri interventi, c'è il numero verde al quale già potete prenotarvi, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, sia che siate appassionati di calcio, sia che non lo siate, se dovete fare delle domande su degli aspetti tecnici che non capite, su delle azioni che ci sono state che vorreste, sulle quali vorreste un chiarimento. Intanto procede naturalmente, iniziamo anche normalmente con effetto notte, perché tratteremo come sempre i vari temi più importanti della giornata. Parleremo molto di politica perché c'è stata la direzione PD e poi di altri temi con i vari ospiti. Per i vostri commenti ricordatevi che c'è anche la pagina Facebook di effetto notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggio WhatsApp che è 349 238 6666, e poi vi dicevo appunto il numero verde 800 24 00 24. Quindi se tutto va bene sino alle 23, se l'Italia dovesse vincere, se malauguratamente non fosse così, potremmo anche procedere fino a mezzanotte in questa puntata speciale di effetto notte. Però prima di tutto, come sempre, il riassunto della giornata. Calcio Italia-Svezia è la partita decisiva per le qualificazioni mondiali 2018. In oltre 70.000 a San Siro per il momento il risultato è 0-0. E poi la direzione del PD, Renzi dice pronti a dialogare con tutti ma niente abiure, e sospetta una prospetta una coalizione che va dai moderati alle forze di sinistra, ma Bersani è scettico e sottolinea aspettiamo i fatti. Pensioni, proposta del governo in 7 punti per un costo di 300 milioni, tra le misure l'esenzione dall'aumento a 67 anni per 15 categorie di lavori gravosi. Il violento terremoto tra Iraq e Iran, il bilancio provvisorio di oltre 400 vittime, e poi 200 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie di un complesso residenziale. Il naufragio dei bambini per la strage di Lampedusa dell'11 ottobre 2013, il GIP dispone nuove indagini e quindi respinta la richiesta di archiviazione. Maltempo ormai è arrivato, neve e disagi sull'Appennino tosco-emiliano. E poi ancora atteggiamenti filonazisti nel calcio: dopo un gol a Marzabotto, un calciatore fa il saluto romano e mostra la maglietta della Repubblica Sociale. Sospeso dal club, il calciatore poi si scusa su Facebook. Quindi avete appena sentito, per chi ha acceso appunto circa 12 minuti fa, 15 minuti fa, l'inizio di Effetto Notte con il nostro Dario Ricci in collegamento da San Siro per il test finale per la nazionale italiana, test che deve superare assolutamente se vuole approdare in Russia nel 2018 per i mondiali. È quindi l'ora della verità, come stanno titolando un po' tutti. A San Siro l'Italia si gioca tutto per conquistare questa qualificazione. Gli azzurri di Ventura devono ribaltare il risultato dell'andata, che è stato di 1-0 per la Svezia. Il CT ieri ha confermato l'impiego di Jorginho al posto di De Rossi, e anche le ultime indicazioni vanno nel senso di un impiego di Gabbiadini al fianco di Immobile nel 3-5-2. E come vi dicevo appunto, questa puntata speciale, quindi andremo avanti almeno sino alle 23, se non addirittura sino a mezzanotte. Voi preparate i vostri commenti sulla partita, sia che siate appunto neofiti, sprovveduti di calcio, oppure appassionati, oppure anche le vostre riflessioni sui fatti della giornata. Iniziamo allora con la direzione del PD. Aprendo il suo intervento, il segretario del partito Matteo Renzi oggi ha detto: vorrei essere il più chiaro possibile, noi siamo alle porte della campagna elettorale, punto. Significa che lo sforzo unitario che si chiede all'esterno deve essere praticato anche all'interno, a partire da me. A chi dice, vi leggo le sue affermazioni visto che ormai lo streaming è passato di moda, dice: a chi dice cancelliamo il passato e parliamo soltanto di futuro, dico che dobbiamo rivendicare con forza quello che abbiamo fatto. Sempre in questa direzione a porte chiuse ha detto: chi si esercita in abiure non si ricorda come stava il paese 3 anni fa. E al termine della giornata la relazione di Renzi è stata votata, nessun voto contrario e ci sono state 14 astensioni dell'area di Orlando. Torneremo poi a occuparcene tra poco per capire se ci sono state prese o meno delle decisioni importanti e in che direzione, a partire soprattutto dalle alleanze. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, trasferta americana per il candidato Di Maio dopo il ritorno ieri in TV da Fazio, a Washington per il candidato premier dei 5 Stelle c'è un programma fitto di appuntamenti, incontri per illustrare le idee e le proposte del movimento. In primo piano c'è anche il dibattito sulle pensioni. Il governo ha proposto ai sindacati un intervento sulle pensioni in 7 punti per un costo di 300 milioni. Tra le misure c'è l'esenzione dall'aumento a 67 anni per 15 categorie di lavori gravosi e la revisione del meccanismo di calcolo per l'adeguamento dell'età. Si va intanto verso il via libera 46.000 domande per l'accesso all'APE sociale. quindi l'anticipo di pensione e alla pensione anticipata per i precoci. Poi nella manovra economica spunta intanto il bonus fiscale per i nonni che aiutano economicamente i nipoti. Si prevede l'allargamento delle detrazioni al 19% su spese mediche, scolastiche e sportive. E dal decreto fiscale spunta lo sblocco di questa vicenda della direttiva che imponeva, insomma, ai genitori di andare ad accompagnare e prendere i ragazzi minori di 14 anni a scuola. Bene, sbloccata la faccenda, nel decreto fiscale i ragazzini potranno tornare a uscire autonomamente da scuola autorizzati dai genitori. Nel frattempo, a proposito di economia, anche il Fondo Monetario conferma la ripresa dell'Italia. Le indicazioni sul nostro paese sono contenute nel documento dedicato alle prospettive economiche dell'Europa. L'istituto con sede a Washington conferma allora una ripresa per l'Italia quest'anno al più 1,5%. Un'accelerazione questa viene spiegato in un contesto in rafforzamento per l'eurozona. Bene anche secondo l'FMI il cambio di passo nelle vendite dei crediti deteriorati. Il Fondo Monetario suggerisce poi ai paesi con un debito pubblico alto di approfittare della ripresa economica per ridurlo. Auspica quindi un maggiore impegno contro la corruzione. La ripresa in Italia è reale, ma l'economia è ancora fragile, commenta il presidente di Confindustria Boccia, che guarda così alla legge di bilancio. Dobbiamo fare i conti con la sostenibilità del debito pubblico del paese. Purtroppo non possiamo fare proposte che riguardano aspetti categoriali e che però prescindono da questo elemento. Devo dire che questa legge di bilancio, se sarà approvata così, è nelle aspettative di chi sapeva che non c'erano grandi margini di manovra. Il paese cresce grazie alle riforme, commenta dal PD Carbone. La sinistra non ha saputo affrontare il nodo del debito, dice Brunetta, Forza Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso spostiamoci sulle notizie dall'estero. Con il devastante terremoto che c'è stato tra Iran e Iraq, l'agenzia iraniana Tasnim ha reso noto che il bilancio dei morti del sisma di magnitudo 7.3 è di 445, mentre i feriti sono 7.370. Gli ultimi bilanci ufficiali parlano invece di 407 morti, ma insomma è un bilancio provvisorio, sono comunque molti, soprattutto in Iran. Oltre la metà delle vittime si registrano nella città di Sarpol Azab, a maggioranza curda, nella provincia di Kermanshah. L'unico ospedale presente in città è stato danneggiato dal terremoto e poi oltre 200 persone sono intrappolate sotto le macerie di un complesso residenziale. Parliamo di migranti e della strage di Lampedusa, quella che avvenne l'11 ottobre 2013. Il GIP di Roma, Giovanni Giorgianni, ha respinto la richiesta di archiviazione del caso riguardante il naufragio dei bambini, come viene detto, perché molti furono i bambini che morirono in quel caso, formulando quindi una richiesta di imputazione coatta di alcuni degli indagati della nave Libra della Marina Militare. Morirono in quella tragedia 268 persone, tutte siriane, delle 480 che viaggiavano su un peschereccio. Fra i morti c'erano almeno anche 60 bambini. Niente archiviazione per la strage dell'11 ottobre 2013, quando in acque maltesi, a poca distanza da Lampedusa, morirono in mare circa 300 persone. A causa dei ritardi e del rimpallo di responsabilità fra Malta e l'Italia, secondo l'accusa. Ora il GIP Giovanni Giorgianni ha respinto la richiesta di archiviazione. Ha chiesto l'imputazione coatta per rifiuto di atti d'ufficio omicidio colposo di Luca Licciardi della Marina Militare e di Leopoldo Manna della Guardia Costiera. Il GIP ha chiesto inoltre 6 mesi di indagini aggiuntive per fare chiarezza sulla posizione di Katia Pellegrino, prima comandante donna della Marina Militare, coinvolta nella vicenda perché al comando della nave Libra, che di quell'esperienza raccontò anche in un libro e una serie televisiva. Il naufragio dell'11 ottobre 2013 è conosciuto come il naufragio della nave dei bambini perché a bordo erano moltissimi i minori. C'è una bambina, prendi a loro! Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca con la storia di un presunto pedofilo accoltellato da una vittima è accaduto in provincia di Pordenone. Da vittima a carnefice, da preda ad aggressore del suo presunto molestatore. Arriva dopo anni la vendetta di un ex minorenne che ha denunciato abusi sessuali. Arriva prima di ogni altro verdetto della giustizia, attraverso il coltello con cui ha più volte colpito l'uomo che a suo dire lo avrebbe violentato. È successo a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, dove ora il ferito, 48 anni, ex medico, è in prognosi riservata, mentre il suo aggressore, 23 anni, si è costituito. A febbraio comincerà il processo a carico del presunto molestatore, che racconta però tutt'altra versione. Dice di essersi preso cura per anni del minore, proveniente da un paese dell'est Europa, e smentisce la paternità delle immagini pedopornografiche trovate nel suo PC. Di sicuro, al di là di quanto sarà accertato nei processi, si impone il tema dell'assistenza alle vittime, riflette Don Fortunato Di Noto, che sollecita finanziamenti per le associazioni che, come la sua, seguono minori che hanno subito violenza. Quante risorse lo Stato garantisce alle vittime? La vittima può diventare l'aggressore, abbiamo anche delle responsabilità sociali. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso gli scandali legati alle molestie e abusi sessuali nel mondo del cinema. Questo è un caso che riguarda anche l'Italia, si sta parlando in questi giorni. La Warner Bros. Cancella Fausto Brizzi, il regista Fausto Brizzi, dal suo film, che poi riappare. Ieri ci sono state le accuse di 10 attrici in TV. Chi è questo regista? Fausto Brizzi. Il regista è Fausto Brizzi. Il regista è Fausto Brizzi. 10 attrici con i volti oscurati e le voci camuffate hanno denunciato il regista romano Fausto Brizzi in TV alle Iene. Tra loro soltanto due, Clarissa Marchese, Miss Italia 2014, e la modella Alessandra Giulia Bassi, non hanno chiesto la riservatezza. 10 testimonianze raccolte dal programma televisivo nell'inchiesta sulle violenze e gli abusi nel mondo del cinema italiano, che chiamano in causa il cineasta romano. Fausto Brizzi, dal canto suo, si è difeso dichiarando di non aver mai avuto in vita sua rapporti non consenzienti. Ma l'autore dell'inchiesta, Dino Giarrusso, conferma che tra le decine di mail arrivate in redazione da parte di altre attrici pronte a raccontare tutto, un terzo riguardavano sempre Fausto Brizzi. Nonostante la bufera che si è abbattuta su di lui, c'è chi prova a difenderlo, come Nancy Brilli, che con Brizzi ha fatto 3 film. Con me si è sempre comportato da gentiluomo, e ha aggiunto: le denunce si fanno in procura e si è colpevoli quando è scritto in una sentenza. Inoltre, avance, molestie e stupro sono 3 cose diverse, e oggi si sta mettendo tutto insieme. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche di maltempo, perché ormai è arrivato. Per le precipitazioni nevose in atto sull'Appennino tosco-emiliano, Rete Ferroviaria Italiana ha attivato il piano neve e gelo, disagina 1 a Firenze, fiocchi di neve sono caduti anche a Bologna, c'era anche qualche ascoltatore che scriveva di disagi vari in autostrada. Poi sentiamo sia il nostro meteorologo e ovviamente anche gli aggiornamenti per chi sta viaggiando tra poco. Poi citiamo anche questa notizia, perché ci sono stati ancora atteggiamenti filonazisti nel calcio dopo tutta la vicenda dei volantini con Anna Franca, vi ricordate, nelle settimane scorse. Una volta segnata la seconda rete, quella che ha dato la vittoria per 2-1 alla sua squadra, cioè la 65 Futa, sul campo di Marzabotto, in provincia di Bologna, un nome naturalmente noto per le stragi naziste, in una sfida al vertice nel campionato di seconda categoria dilettanti, si è diretto questo calciatore a festeggiare facendo il saluto romano e mostrando una maglietta della Repubblica Sociale. La società ha sospeso il proprio tesserato dall'attività agonistica, annunciando che sarà multato. Il calciatore Eugenio Maria Luppi si è poi scusato su Facebook. Il presidente della FIGI Civitavecchio ha sollecitato provvedimenti. Anche una notizia che riguarda il vino più antico, a 8.000 anni, ossia 1.000 anni più di quanto si pensasse già allora. Insomma, ne godevano del vino, le sue tracce risalgono al periodo neolitico, sono state scoperte nei frammenti di 8 vasi in terracotta rinvenuti in Georgia, nel Caucaso meridionale, annunciata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, PNAS. La scoperta si deve ai ricercatori del Museo Nazionale Georgiano. E adesso è tempo di ricollegarci a San Siro con il nostro Dario Ricci. La partita viaggia sempre sul 0-0 Italia-Svezia, è vero Dario? 30° del primo tempo, Roberta, sì, 0-0, l'Italia che cerca il gol per ritornare in corsa per Russia 2018, l'ha sfiorato pochi istanti fa, il 26esimo, il cross di Immobile che attraversa tutto lo specchio della porta, la palla arriva a Candreva, il destro da non più di 6 metri in diagonale, alto sulla traversa della porta difesa da Olsen, che forse ha pure sfiorato il pallone, ma l'arbitro Laozzo non ha assegnato il calcio d'angolo. Al 16esimo da segnalare, anzi no, al 18esimo, scusate, l'infortunio allo svedese Johansson, proprio il marcatore della gara d'andata, che si è fatto male da solo giocando un semplice pallone a centrocampo, sostituito da Svensson. Ora palla al limite dell'area degli svedesi, l'Italia prova a farsi largo sulla sinistra con Darmian, lo scambio con Chiellini, la palla che arriva a Giorginio, che finora sta ben orchestrando la zona e il gioco a centrocampo, proponendosi più volte, anche adesso scambia con Barzagli. Da registrare anche il colpo al ginocchio ricevuto da Bonucci in un contrasto poco prima dell'azione gol che vi ho precedentemente descritto. Il difensore milanista sembra essersi ripreso. Ora il lancio in profondità proprio di Bonucci, ma c'è il fallo di Immobile su Lindelof. 32esimo di gioco a San Siro, ancora 0-0 tra Italia e Svezia. In questo momento siamo fuori da Russia 2018. In questo momento, Dario Ricci, poi vedremo, insomma, la partita è ancora lunga. Intanto fa una certa impressione vedere questo calciatore Bonucci con questa maschera quasi da Hannibal the Cannibal. Non è colpa sua, perché gli hanno fatto male al naso nella partita d'andata. Speriamo che non si facciano male ulteriormente, anche diciamo in termini di gol. Bene, nel frattempo aggiorniamo chi sta viaggiando. Poi cominciamo tra poco ad approfondire, come sempre, alcuni dei temi principali. Cominceremo dalla politica, perché c'è stata la direzione PD. Che cosa ne è emerso? Lo sapremo tra pochissimo. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Paolo dice: adesso non attacchiamoci a fatti epicamente fortunati accaduti in passato per la qualificazione dell'Italia. La storia non si ripete, ho paura che saremo eliminati. Devo dire il sentore di molti, però finché non finisce la partita nulla si può dire. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme in questa puntata speciale di Effetto Notte. Roberta Giordano con voi, sin oggi addirittura dalle 20.50 abbiamo iniziato, visto che c'è la sfida finale dell'Italia per le qualificazioni mondiali Russia 2018 in campo contro la Svezia a San Siro. Un pubblico d'eccezione, tutto esaurito, oltre 70.000 spettatori. Per il momento il risultato è sempre 0-0. Dice un ascoltatore tutto indignato, Paolo da Genova, ma la pianta di gufare parole come se perdesse, se l'Italia non ce la dovesse fare, eccetera. Inizio partita, non si dicono, dice, colmi questa lacuna. Io non sono né superstiziosa né scaramantica. Ho detto che andremo avanti oltre le 23 se dovesse succedere, diciamo, l'irreparabile. No, adesso non è che stiamo parlando di tragedie o di cose. So, per qualcuno probabilmente sì, però cerchiamo di mantenerci un po' laici su queste cose. Però il vostro entusiasmo, la vostra indignazione, poi la sentiremo anche attraverso le vostre voci. Se volete potete già prenotarvi all'800 24 00 24 perché fino alle 22 ogni tanto ci aggiorneremo con il nostro Dario Ricci da San Siro, che è lì che sta seguendo dalle tribune la partita, e poi dalle 22 invece insieme ad altri colleghi esperti di calcio commenteremo anche le variazioni e come sta procedendo la partita. Adesso però saremo su altri temi di approfondimento. Intanto vi ricordo il numero per gli SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Igor dice: ma un'italietta del genere arrivata a trovarsi in questa situazione, anche se andasse al mondiale, che cosa volete che faccia? Va fuori subito, dice Igor. Igor dice così senza tanti problemi. Poi parleremo in più modo più approfondito. Adesso vi ricordo, se non avete acceso puntualmente questa sera, in realtà già prima delle 21, quali sono le notizie più importanti. Alla direzione PD, Renzi rilancia una coalizione che va dai moderati alla sinistra, dice c'è dialogo, né veti né abiure, ma Bersani non ci sta. E poi si va verso un'intesa sulle pensioni, c'è una proposta del governo, un piano in 7 punti, tra le misure l'esenzione dell'aumento a 67 anni per 15 categorie di lavori gravosi. Il naufragio dei bambini, quello dell'11 ottobre 2013, il GIP dispone nuove indagini, viene quindi respinta la richiesta di archiviazione per quella strage. E poi un terremoto al confine tra Iraq e Iran, molto pesante, di magnitudo 7.3, e i morti sarebbero oltre 400. E poi il maltempo che arriva in Italia, pioggia, vento e gelo su tutto il paese, maltempo da nord a sud. Avremo anche il nostro meteorologo che ci racconterà un po' anche quali sono le previsioni per le prossime ore, per i prossimi giorni. E poi per l'Italia contro la Svezia, l'abbiamo detto, è l'ora della verità. Non so se sia stata anche l'ora della verità la direzione del PD di oggi. Saluto su questo la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Salve a tutti. Visto che oggi appunto l'evento più importante, diciamo, della politica italiana è stata la direzione PD, soprattutto perché dopo la sonora sconfitta in Sicilia e anche l'assenza nel ballottaggio che ci sarà a Ostia il prossimo 19 novembre, il Partito Democratico, in vista particolarmente poi delle elezioni politiche, deve decidere appunto che direzione prendere, prima di tutto in termini di alleanze. Allora, unirsi o non unirsi dopo che si sono disgiunti con l'MDP, ma anche con altre forze. forze, dice Renzi, no? Ha parlato di una ampia alleanza che va dai moderati sino alla sinistra, con anche Campo Progressista di Pisapia, con Sinistra Italiana, oltre che MDP. Quella di oggi doveva essere una riunione cruciale, non so se lo sia stato, perché sto leggendo varie agenzie e non mi sembra che a sinistra siano molto propensi da quello che è stata la proposta di Renzi. Io comincerei a sentire però, per esempio, che cosa aveva detto, anzi Pisapia e Boldrini li potremo sentire dopo. Sentiamo invece Bersani oggi, la reazione di Bersani, Pierluigi Bersani. A dispetto delle affermazioni che siamo usciti alla crisi, superato il gap, che abbiamo dei problemi, a cominciare da quello del lavoro, e quindi adesso vedremo, per amor di Dio, seguiamo la discussione, però basta che si sappia che le chiacchiere stanno a zero, adesso ci vogliono dei fatti. Ecco, le chiacchiere stanno a zero, Barbara. Allora, Renzi ha premesso prima di tutto: siamo pronti a dialogare con tutti, ma niente abiure, cioè non rinneghiamo e non cambiamo quello che abbiamo fatto in passato, in primis il Jobs Act, credo, no? Che sia quella la riforma del lavoro. Mi sembrava di leggere appunto che non ci sia stata, per quanto riguarda le forze di sinistra, siamo un po' delusi, non c'è stata questa svolta che si aspettavano, no? Vorrei essere, come al solito, un pochino, come dire, brusca nell'analisi. Ti è concesso, allora, sì. Mi è concesso. Certo. Allora, tanto i nostri ascoltatori sono bravi, quindi capiscono. Scusate, tra l'altro, Barbara Fiammeri l'ho strappata alla partita, perché stavi guardando la partita con birra e popcorn, se Ma non sbaglio. Ma certo, Forza Italia sempre e comunque. Va bene. Invece per le nostre magagne politiche? Stavo dicendo che... insomma, non ci giriamo tanto attorno. Il punto fondamentale è la testa di Renzi, per chi si potrebbe alleare o meno con il PD, perché sennò la scissione non ha senso. Cioè, ma come possiamo pensare che Bersani, D'Alema, cioè tutta una serie di persone che erano ai vertici del Partito Democratico, che sono usciti in rottura con l'attuale segretario, decidono di rientrare perché c'è l'apertura di Renzi sul Giobatto, sul Iustolio, su non so cos'altro. È evidente che qui c'è un problema anche di carattere, oltre che politico, sui temi, per carità, io massimo rispetto, però credo che ci sia anche un problema di carattere proprio personale. Cioè qui, se, finché c'è Renzi, non c'è possibilità di alleanza, questo mi sembra scontato. Ora, però da parte del Partito Democratico ricordo sempre che comunque Renzi è uno dei pochi segretari eletti insieme a Salvini, Renzi anche da delle primarie, cioè è stato fatto veramente un congresso, ci sono state delle primarie e questo segretario è stato votato, cioè, non è che perché bisogna allearsi con Bersani allora il Partito Democratico cambia il segretario, cambia il candidato premier, perché poi questo è il punto. E anche questa è una grande finzione, come ho detto tantissime volte ai nostri ascoltatori, perché sappiate che tutti quelli che vi raccontano che si candidano premier sicuramente non lo saranno, lo saranno altri, perché ci sarà un governo di coalizione, anche un governo di centrodestra non saranno né Salvini né Berlusconi, ce ne sarà un terzo, magari un Tajani, magari un Zaia, magari, ma certamente non saranno quelli di cui oggi sentiamo parlare, per cui anche questa è una finzione. Allora, qual è il punto? Il punto è se adesso la mancata alleanza nel centro-sinistra può provocare un terremoto non solo nel Partito Democratico ma anche tra gli scissionisti. Ecco, fermati su questo possibile terremoto, la domanda sospesa, perché dobbiamo ricollegarci con il nostro Dario Ricci con San Sirio, Italia-Svezia. Dario? 42esimo di gioco, ancora 0-0 tra Italia e Svezia, ma Italia che è in forcing e che negli ultimi due minuti ha avuto due buone occasioni per passare in vantaggio. Al 40esimo Jorginho in verticale per Immobile, tu per tu con Olsen, il destro della punta della Lazio sembra superare il portiere svedese e infilarsi verso la porta, ma adesso ancora Immobile, la palla al centro e Granqvist anticipa Parolo proprio nel momento della possibile deviazione decisiva. Un'Italia che va in forcing sull'urlo di San Siro, dei 70.000 di San Siro che sentite in sottofondo. Sentiamo, diciamo, sì. Seguiamo ancora questo attacco con Darmian, il cross al centro, libera però Svensson, recupera il pallone ancora l'Italia che conquista una posizione sulla tre quarti. Italia in forcing, dicevamo, il tiro di Immobile deviato da Olsen e poi Granqvist ha salvato praticamente a porta vuota, e al 41esimo c'è stato il sinistro dal limite di Gabbiadini, alto. Un'Italia che prova il forcing in questa parte finale del primo tempo, a lungo gli azzurri hanno avuto il controllo del pallone senza creare grandi occasioni, adesso invece si stanno riversando con maggiore convinzione nell'area svedese. Il crossing a piedi, il colpo di testa di Bonucci, alto sulla traversa, continua il forcing azzurro, finalmente riusciamo a proporci nell'area di rigore svedese anche con una certa pericolosità. Svezia finora che è stata molto ordinata a difesa dell'1-0 dell'andata, ma che non ha prodotto grandi pericoli dalle parti di Buffon, se si eccettua un tocco di mano di Darmian, non giudicato però da rigore dall'arbitro Laos, e un retropassaggio di Jorginho che ha attivato Toivonen, ha attivato Berg, e fortunatamente Buffon è riuscito a disinnescare il pericolo. Ma seguiamo ancora, Roberta, questa fase offensiva degli azzurri, che è ancora sulla destra. C'è Barzagli che scambia con Jorginho, ancora il difensore esterno destro della Juventus, che taglia tutto il campo per Chiellini. La palla arriva sull'out sinistro a Darmian, che innesca Florenzi, che cerca il fondo, entra nell'area di rigore, Florenzi in tiro, la respinta di Olsen. Bellissima azione, questa volta sul lato sinistro, con Darmian che ha imbeccato Florenzi, che in bello stile, con un bel dribbling, si è liberato del marcatore diretto, si è presentato tu per tu con Olsen, bravo però a rimanere fermo come un portiere di hockey e a respingere la conclusione del romanista. Ma l'Italia c'è, l'Italia si sta svegliando, entrando lentamente in partita, anzi no, direi con una bella accelerazione in questi ultimi minuti. Ancora Barzagli in avanti, la sponda di Gabbiadini su Jorginho, pressato da Berg, bravo il centrocampista napoletano a liberarsi del pallone per Parolo, poi Barzagli, ancora Chiellini, e palla ancora a Darmian sull'esterno sinistro, rientra sul destro il difensore del Manchester United, il pallone deviato a centro area da Lindelof, arriva però sulla destra a Candreva che cerca il cross, il rimpallo favorisce però Fosberg che prova a ripartire. 3 minuti di recupero ora in attesa del fischio finale del primo tempo. Italia 0, Svezia 0, in questo istante siamo ancora fuori da Russia 2018, ma non tutto potremmo dire, ma meno che questa Italia non ci sta provando con tutte le sue forze, Roberta. Ci sta provando, grazie Dario Ricci, si sente anche dalla tua enfasi. Cara Barbara, torniamo noi alla politica? Dove ci avevamo lasciati? Allora, certamente meno divertente della partita. Insomma, dipende dai gusti, perché c'è per esempio Max che mi scrive: ma chi se ne frega del calcio, abbiamo la nostra Roberta. Io ti ringrazio, però diciamo che bisogna parlare di tutte le notizie principali della giornata, e anche questa partita naturalmente lo è. Torniamo alla politica, dicevo, mi sa che la cosa più incisiva oggi, Barbara, dal mio punto di vista, per la direzione PD, l'ha detta il ministro della giustizia Orlando, che è della minoranza di sinistra del PD, ha detto: il PD è in un vicolo cieco, perché ha approvato una legge, quella elettorale, che prevede le coalizioni, ma al momento non ha costruito alleanze, e sebbene sarebbe bene evitare di raccontare gli anni scorsi solo in termini positivi, perché in realtà ci sono state luci ed ombre, no? Perché oggi Renzi di nuovo ha rielencato tutti i successi, le cose eccetera eccetera, però mi sembra che poi a livello, forse non lo so, di temi, di svolta e poi anche di alleanze, non si sia deciso nulla, anche perché forse questa coalizione che lui prospetta, che va dai centristi, quindi dal Fano possiamo dire, fino a Sinistra Italiana, mi sembra un po' poco fattibile, no? Come... Ma tanto per essere chiari, sì, ripeto, per sposarsi bisogna essere in due, oppure anche in caso di poligamia comunque serve il consenso di un'altra parte, di altre parti, e quindi Renzi può anche aprire una coalizione, ma se gli altri non si vogliono coalizzare è un po' difficile farla questa coalizione. La legge elettorale, l'apertura alle coalizioni l'aveva chiesta esattamente la minoranza, Dem, perché anche questo giochino del cerino, insomma, va bene che Renzi non è particolarmente simpatico, però attribuire ogni colpa, ogni situazione al segretario del Partito Democratico mi sembra un po' eccessivo. Cioè l'apertura alla coalizione era stata voluta dalla minoranza PD proprio per andare incontro, come dire, a MDP e alle altre parti della sinistra. Sì, ma secondo te i centristi di Alfano, visto che sono visti come fumo negli occhi da parte della sinistra, cioè devono starci per forza? Non si può trovare un compromesso, nel senso che ma i centristi, allora, tanto anche qui i centristi. I centristi sono una formazione abbastanza piccola e peraltro molto frammentata al suo interno, perché al di là hanno avuto recentemente questa conferenza programmatica in cui hanno detto possiamo andare da soli, ma tutti sanno che qualora decidessero di schierarsi, e l'unico possibile schieramento per loro è il centrosinistra, perché con Berlusconi ormai c'è una rottura, se Alfano dovesse optare per una convergenza verso Renzi, immediatamente si spaccherebbe tutta l'ala lombarda, andrebbe certamente con Forza Italia. Questo perché? Perché sia nel Lazio che in Lombardia, ricordiamo, si voterà la prossima primavera, probabilmente assieme alle politiche, per cui è impensabile che tutti a lei per il governo nazionale con una parte e poi magari per governare la regione vai in un altro modo, cioè non sarà possibile. Un conto quando accade questo in momenti diversi, no? Temporalmente, come è avvenuto per esempio anche in alcune occasioni, ma qui avremo magari un election day, cioè voteremo il presidente della regione Lombardia, della regione Lazio e della regione Friuli nello stesso giorno in cui voteremo per il governo nazionale. Insomma, non è pensabile questa schizofrenia. Tutto è possibile, però ritengo abbastanza improbabile. Sentiamo Cuperlo, che comunque ha votato la relazione di Renzi, che però è sempre abbastanza critico, anche lui, della minoranza di sinistra all'interno del PD. Sentiamo cosa ha detto. Io mi auguro che nelle prossime settimane il governo scelga di porre la fiducia al Senato sulla legge sullo ius soli, che si dia corso anche alla legge sul fine vita e che il governo accolga quelle richieste da parte della nostra sinistra, ma non solo, che vogliono e chiedono una torsione in senso sociale della manovra sui temi che abbiamo sempre indicato, la sanità, i diritti, il lavoro, la previdenza, insomma, mettersi di nuovo dalla parte del paese che chiede una sinistra unita, ma sulla base di valori e contenuti precisi. Questi valori, questi contenuti, fine vita, ius soli, temi del lavoro, diritti, dice che se ne è parlato, tu che allora, hai dentro. Perché poi questo, lo streaming è passato di moda, prima il Movimento 5 Stelle, poi anche il PD streaming, quindi tutti potevano collegarsi e sentire di cosa parlavano, adesso diciamo ormai archiviato questo modo di comunicare. Sì. Ma forse anche meglio, perché io ritengo, ho sempre ritenuto lo streaming una grande finzione, nel senso che poi quando tu stai, vale anche per noi. Cioè, io e te, Roberta, diciamolo, quando parliamo in privato non ci rivolgiamo come quando siamo in pubblico in radio, e quindi immagino che... Beh, diciamo cose cosa... fini, garbate, comunque, non è che... chiaro, magari chiedo delle cose, tu chiedi delle cose a me comunque, che... sì, prego. E quindi dico, anche in questi casi, no, lo streaming è un po' una funzione, perché poi ci si racconta... è più dedicato a quelli che sono fuori che a quelli che sono dentro. Quindi forza un po', insomma, snatura. Sì. No, invece tornando a quello che dicevi, diritti, valori, le battaglie della sinistra, certamente gli ius soli e per quanto riguarda il testamento biologico, la legge sul fine vita, sono due temi che fin dall'inizio erano al centro della campagna elettorale del PD guidato da Bersani, quindi certamente sono due temi di valore e di importanza strategica per la sinistra e anche a parole anche per il Partito Democratico, almeno questo è stato detto in più occasioni. Per quanto riguarda invece poi tutte le vicende rispetto al sostegno alle fasce deboli, io vorrei essere un pochino pragmatica e ricordare che noi abbiamo una manovra da 22 miliardi che dedica 16 miliardi al recupero alle famose clausole di salvaguardia dell'IVA, cioè per evitare che scatti l'IVA, l'aumento dell'IVA, dobbiamo coprirla e quindi metterci dei soldi. Quindi alla fine resta assai poco da dedicare, come dire, alla crescita, allo sviluppo, agli investimenti, alle fasce deboli. E questo poco viene centellinato, abbiamo visto anche i 300 milioni sulle pensioni, ad esempio. Ecco, proprio di pensioni, Barbara, abbiamo 60 secondi e poi dobbiamo lasciarci. Sembra che si vada verso un'intesa. Comunque il governo ha presentato ai sindacati un piano in 7 punti. Tra queste misure c'è l'esenzione dall'aumento a 67 anni, che sappiamo il pomo della discordia, l'esenzione da questo aumento a 67 anni per 15 categorie di lavori gravosi. La leader della CGIL Camusso è in realtà insoddisfatta, dice, sull'aspettativa di vita le proposte e la platea degli esentati da quota 67 avanzate dal governo sono insufficienti, quindi probabilmente si riaggiorneranno sabato. Vuoi fare proprio un commento proprio fulmineo, Barbara? Beh, il commento fulmineo è che i sindacati si dovrebbero preoccupare anzitutto, i sindacati e non solo, ovviamente il governo e tutti, del lavoro, perché se non ci saranno i lavoratori noi non andremo più in pensione, non ci andremo proprio in pensione, perché non ci sarà più chi paga i contributi. E secondo quelle che sono proprio le statistiche dei dati dell'INPS, da mi sembra 2040 o giù di lì, di fatto ci saranno meno lavoratori e più pensionati. A quel punto la mia pensione, proprio singolarmente, chi la pagherà se non ci saranno più altri giovani giornalisti che nel frattempo sono entrati nel circuito del che lavoro? Guaio, e questo vale per tutte le categorie. Più che i 67 anni io mi preoccuperei di questo, del futuro. Grazie Barbara Fiammeri. In futuro grazie, ci sentiamo molto presto naturalmente. Buona serata a te. Direi di prenderci questa pausa e poi riprendiamo subito dopo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con Roberto Giordano con voi, che è iniziato prima del solito alle 20.50, perché questa sera è un Effetto Notte speciale che va avanti sino alle 23 e in certi casi potrebbe andare avanti anche fino a mezzanotte, perché stiamo seguendo, oltre ai vari fatti principali della giornata, anche l'altro fatto, che è quello della partita di calcio decisiva per la qualificazione dell'Italia ai mondiali, questa partita che si sta giocando a San Siro tra Italia e Svezia. Per il momento il risultato è 0-0, però intanto, mentre voi scrivete i vostri commenti tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666 per messaggi e WhatsApp, vi ricordo anche i fatti principali e parliamo naturalmente anche di altri temi. Finora abbiamo parlato anche molto di politica. La direzione del PD, Renzi dice: siamo pronti a dialogare con tutti ma niente abiure, e prospetta una coalizione dai moderati sino alle forze di sinistra, ma Bersani scettico, sottolinea: ci aspettiamo i fatti. Pensioni, proposta del governo in 7 punti per un costo da 300 milioni, tra le misure l'esenzione dell'aumento a 67 anni per 15 categorie di lavori gravosi. Il violento terremoto tra Iraq e Iran, ne parliamo tra pochissimo, e poi maltempo, neve, disagi sull'Appennino Tosco-Emiliano, poi ci aggiorneremo anche su questo, e poi ancora atteggiamenti filonazisti nel calcio. Avete sentito che dopo un gol a Marzabotto un calciatore ha fatto il saluto romano e ha mostrato la maglietta della Repubblica Sociale, è stato sospeso dal club. E fra le notizie principali di oggi c'è anche purtroppo questo violento terremoto che ha colpito il confine tra Iran e Iraq, con un bilancio provvisorio di oltre 400 morti, vero Roberta Pellegatta? Ciao Roberta. Purtroppo il bilancio continua a salire, quindi gli aggiornamenti su questo terremoto in Medio Oriente inevitabilmente sono tragici. L'ultimo bilancio, come dicevi, parla di 445 morti accertati, 7.300 feriti in gran parte in territorio iraniano, mentre, come ricordavi, il terremoto è avvenuto esattamente al confine tra Iran e Iraq. Oltre la metà delle vittime si registrano nella città iraniana di Sarpol-e-Zaab, a maggioranza curda, dove l'unico ospedale è stato gravemente danneggiato e dove è a rischio la tenuta di una diga. Qui oltre 200 persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le macerie di un complesso residenziale crollato. Ci sono poi frazioni e villaggi non ancora raggiunti dai soccorritori, anche perché il sisma ha provocato molte frane. E mentre ancora si è all'apice dell'emergenza, già ci si interroga sul motivo per cui l'Iran stia pagando molto di più in termini di vite umane rispetto al vicino Iraq, e già si punta il dito contro diverse opere di edilizia popolare fatte costruire a costi contenuti durante il governo del presidente ultraconservatore Ahmadinejad. Mobilitata la comunità internazionale, anche l'Italia sta facendo la sua parte. Il ministro degli esteri Alfano ha fatto sapere in serata che sta per partire da Brindisi verso l'Iraq un volo umanitario della cooperazione italiana con un carico di 12 tonnellate di aiuti. Lo stesso sta facendo la Turchia nei confronti delle popolazioni curde irachene, nonostante, lo sappiamo, le recenti tensioni con le autorità locali seguite al referendum sull'indipendenza del settembre scorso. E per il momento è tutto. Grazie Roberta Pellegatta. E, naturalmente, appunto, parlava Roberta di un bilancio provvisorio che è destinato probabilmente a salire, ma ci fermiamo qui per il momento. Ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia e ci sentiamo veramente a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Molto più di 60 minuti questa sera, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sempre Roberta Giordano con voi. Ringrazio chi mi dice bentornata, in realtà non me ne sono mai andata, ma venerdì ho avuto questo incidente in moto, insomma, sono diciamo abbastanza dolorante e malconcia, però ce la posso fare. Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto da Clotilde a Luigi, a tutti gli altri, insomma sono molti. Potete anche cominciare a prenotarvi per le domande che volete fare o i commenti sulla partita di calcio, perché vi dicevo è una puntata speciale di Effetto Notte, iniziata 10 minuti prima e che finirà o alle 23 o a seconda del risultato, visto che con gli scaramantici non si può dire se perde, se vince, o a seconda del risultato anche fino a mezzanotte. Quindi c'è il numero verde per voi, 800 24 00 24, per prenotarvi per le vostre chiamate. Dalle 22 ci saranno anche i colleghi esperti di calcio come Carlo Genta, Giovanni Capuano e poi Dario Ricci, che c'è in collegamento da San Siro, che potranno commentare la partita e darvi anche le vostre risposte, rispondere o replicare i vostri commenti. Intanto continuiamo invece con gli altri fatti principali della giornata, ne abbiamo parlato finora, oltre ogni tanto ad aggiornarvi sulle partite perché è sempre 0-0. Sentiamo adesso il nostro Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ciao Paolo. Roberto, buonasera a tutti. Caro Paolo, di solito ci incontriamo qui a Effetto Notte il venerdì, però purtroppo c'è da dire che il maltempo inesorabilmente è arrivato, vero Paolo? Sì, prove generali d'inverno oggi, quantomeno in alcune zone dell'Italia, abbiamo visto in Emilia Romagna nevicate, ma anche in pianura, quindi a Bologna ha visto la neve, Modena ha visto la neve, insomma particolare questa situazione per essere a metà di novembre, però ecco, in qualche modo il peggio per quelle zone è passato. Da domani al nord, compresa anche l'Emilia, il tempo tenderà a migliorare, quindi grandi nevicate non ce le attendiamo più da quelle parti. Ora il maltempo si sposta al centro-sud, in particolare medio adriatiche, regioni meridionali. Fino a giovedì sarà un continuo di acquazzoni, temporali, anche la neve sull'Appennino, però oltre i 700-800 metri, quindi insomma non dovremo avere più situazioni di grande disagio. Però insomma l'inverno si prova e tra l'altro le temperature stanno diminuendo in tutta Italia, da domani anche al sud, e tutta settimana ci terremo valori bassini. E tu pensa che al nord, nonostante il miglioramento, anzi proprio per effetto del miglioramento, al primo mattino avremo valori vicini allo zero. Che quindi tristezza, che gran tristezza. Prima o poi doveva finire il caldo, insomma abbiamo avuto un ottobre incredibile, adesso paghiamo un po' il... Anche se devo dire che conosco sempre più persone, soprattutto uomini, ma non solo, che sono contenti del freddo, del buio, ma che certo, arriva prima. Ma certo, cioè, l'ideale sarebbe che ogni stagione facesse il suo dovere, adesso non è più così, accontentiamoci di un po' di freddo ogni tanto, dai, almeno quello. Quindi tutto questo maltempo, vento, anche ho visto diversi interventi anche a Roma, sì. No, per il vento molto forte, dovrebbe man mano migliorare, hai detto intorno a giovedì? Brava, da giovedì, da perché giovedì. In realtà appunto tra domani e giovedì per il sud e anche per il medio adriatico saranno giornate comunque difficili, perché il vento insisterà da quelle parti, in Sardegna sotto il maestrale davvero forte, ma anche in altre regioni avremo venti sostenuti e poi appunto condizioni di maltempo con acquazzoni e piogge. Da giovedì si va verso un graduale miglioramento un po' in tutta Italia, ma tutta settimana, ti ripeto, il freddo ce lo teniamo e quello non ce ne liberiamo. Purtroppo, grazie Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon tempo a te, comunque ciao. Sia. Ciao Paolo. Adesso non so, che vedo qualcuno per terra, Dario Ricci lì a San Siro. Pronto, sì, Dario? Secondo minuto di gioco del secondo tempo, ancora 0-0 tra Italia e Svezia. A terra c'è l'azzurro Darmian, Italia che ha ricominciato il secondo tempo così come aveva chiuso il primo, all'attacco, alla ricerca del gol per pareggiare almeno l'1-0 dell'andata, che in questo momento qualifica per Russia 2018 gli svedesi. C'è stato il cross dalla destra di Candeva, la palla è arrivata a Darmian che si è scontrato con lo difensore svedese Lustig. Gli azzurri hanno chiesto anche il calcio di rigore, ma la OZ ha visto un controllo di braccio da parte dell'azzurro e quindi ha anticipato il calcio di punizione per gli svedesi. Ma Darmian in questo momento, Darmian che tra l'altro era stato dei più positivi sia nella gara d'andata sia in questo primo tempo, fatica a rialzarsi, aiutato dai medici della panchina azzurra. Non ci sono state sostituzioni nell'intervallo nelle due formazioni, ma ricordiamo che la Svezia al 19° ha perso Johansson, proprio quel Johansson autore della rete che fine ora sta decidendo questo doppio confronto, che ha deciso la gara d'andata. Per infortunio al suo posto è entrato Svensson. Ora Darmian sembra essersi ripreso e accompagnato a bordo campo dal dottor Castellacci e dai sanitari azzurri, mentre la OZ ordina in questo istante la ripresa del gioco. È Olsen a calciare il pallone verso la metà campo azzurra, ancora Bonucci a svettare di testa, poi ancora di testa Parolo, Immobile ad aprire per Candreva che di tacco controlla e rimposta l'azione sullo stesso Bonucci che appoggia su Chiellini. Siamo ancora all'altezza del centrocampo della zona difensiva azzurra, ancora Chiellini prova a farsi l'attico sul centro sinistra, appoggia su Florenzi, bravo a innescare ancora Darmian sulla sinistra, la palla al centro che sfila però tra Gabbiadini e Immobile, gli svedesi con Forsberg molto bravo in queste situazioni in cui c'è da recuperare e tenere il pallone, che riconquista la sfera, che però torna rapidamente agli azzurri e ci ritroviamo con il tema tattico della partita, di fatto con Bonucci con la palla tra i piedi che prova in qualche modo ad innescare l'azione d'attacco, ma svedesi molto ordinati, azzurri che non sempre riescono a sviluppare velocità adeguate per scardinare questo bunker difensivo. Ci prova adesso Chiellini che lancia Gagliardini che entra in area di rigore, chiuso però da Larsson che rinvia, Chiellini a contrastare, palla che finisce a Svensson, Immobile prova a recuperare il pallone ma per la Ozzo mette fallo su Svensson e pensa che può tornare a respirare quando siamo al quinto minuto di gioco della ripresa. Italia 0, Svezia 0 a San Siro. Roberta, grazie caro Dario, poi tra poco ci ricolleghiamo. Intanto ringrazio Lino che dice che bello oggi maratona effetto note, perché poi andiamo avanti ancora tra pochissimo, è ancora un'ora se non due, l'unica cosa buona della partita, dice Lino. Vabbè, c'è qualcuno che piace il calcio, qualcuno no, ma aggiorniamo su tutto, notizie le più importanti e anche naturalmente ogni poco la partita. Sono le 22. GR24, il sole 24 ore. E a questo punto della giornata questi fatti principali: calcio, Italia-Svezia, la partita decisiva per le qualificazioni mondiali 2018, inoltre 70.000 a San Siro, la partita per il momento è 0-0. La direzione del PD, Renzi dice pronti a dialogare con tutti ma niente abiure e prospetta una coalizione dai moderati alle forze di sinistra, ma Bersani è scettico e sottolinea aspettiamo i fatti. Pensioni, proposta del governo in 7 punti per un costo di 300 milioni, tra le misure l'esenzione dell'aumento a 67 anni per 15 categorie di lavori gravosi. Il violento terremoto tra Iraq e Iran, il bilancio provvisorio di oltre 400 vittime e oltre 200 persone sono intrappolate sotto le macerie in un complesso residenziale. Naufragio dei bambini per la strage di Lampedusa dell'11 ottobre 2013, il GIP dispone una nuova indagine e respinta la richiesta di archiviazione. Maltempo, neve e disagi sull'Appennino Tosco Emiliano e maltempo soprattutto per il centro-sud. Ancora atteggiamenti filonazisti nel calcio, dopo un gol a Marzabotto un calciatore fa il saluto romano e mostra la maglietta della Repubblica Sociale. Sospeso dal club, il calciatore poi si scusa su Facebook. Pubblicità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sorpresi alcuni che non sapevano che Effetto Notte durasse così a lungo questa sera, chi invece ha seguito dall'inizio, lo si è detto varie volte, Roberto Giordano con voi, come sempre in Effetto Notte la sera, però oggi con questa puntata speciale, abbiamo iniziato 10 minuti prima intorno alle 20.50 e andiamo avanti sicuramente sino alle 23 e nel caso anche sino a mezzanotte, perché ci stiamo occupando anche di aggiornarvi ogni poco sulla partita decisiva dell'Italia contro la Svezia, perché se non si qualifica ai mondiali, insomma, diciamo, sarebbe un bel danno, non succedeva dal 1958, abbiamo detto, e invece, insomma, l'Italia sta cercando di superare questo test per Russia 2018. Ci siamo collegati più volte col nostro Dario Ricci a San Siro, poi c'è qui il caro Carlo Genta. Ciao Roberta. Ciao Carlo. Che sentite tutti i giorni dalle 14 alle 15 con tutti i convocati. Pensa che c'è un'ascoltatrice, Carlo, che subito ha scritto quando vi ho annunciati, Serena, dice: "I ragazzi di tutti i convocati fanno capire e apprezzare il calcio a tutto il mondo che vi ruota intorno, anche a chi come me di calcio ne conosce a malapena l'ABC, buon rientro, eccetera, eccetera." Insomma, capisci? Ma che gentile l'ascoltatrice. Molto gentile. Ecco, sì. Quindi noi, anche se Effetto Notte, diciamo, in genere non è una trasmissione che parla molto spesso di calcio in modo così approfondito, invece stasera vi aggiorneremo, così anche se volete seguire le altre notizie ma rimanere informati su quello che sta succedendo, eccoci qui Carlo. Insomma, non benissimo, 0-0 dopo dopo 60 minuti, manca mezz'ora, l'Italia ha perso l'andata 1-0 e quindi più passa il tempo, più abbiamo questa sorta di incubo di non andare ai mondiali, che a San Siro diventa sempre più realistico. Come ha detto o scritto qualcuno di bravo, i mondiali scandiscono il ritmo della nostra vita. In parte è vero, perché anche chi, come la nostra ascoltatrice, non si occupa tutti i giorni di pallone, insomma, dalle famose notti magiche che poi sono state quelle d'Italia 90 al... coinvolgono comunque, insomma, sono, no? Quanto di più Naz Pop possa esistere. A sto giro non la vedo proprio bene. Carlo, vedi, a me prima un ascoltatore mi ha rimproverata dicendo: non si deve permettere a dire se non dovesse vincere, se non dovesse qualificarsi, perché non si dice così quando inizia la partita. Però mi pare che anche tu non sei molto ottimista. No, non lo ero già oggi. Già dall'inizio, si può dire. Già da oggi, già dopo la sconfitta in Svezia, insomma... È un'Italia che ha avuto anche occasioni da gol, che ci ha messo il cuore, ma non molto di più, diciamo. Ha avuto delle chance per passare, ma siamo appunto 0-0 al 62 e 18 secondi e non la vedo esattamente bene. Carlo, a proposito di chi ne sa meno, quale dovrebbe essere il risultato dell'Italia per qualificarsi? Vincere con due gol di scarto. Quindi, vincere con due gol di scarto, 2-0, 3-1, insomma, con perché due ha perso 1-0 l'andata. 1-0 la partita e quindi di due andata, gol di scarto. Ci colleghiamo con, ancora con San Siro, con Dario Ricci. Dario? 17esimo della ripresa, ancora 0-0 tra Italia e Svezia. Un'Italia che sta veramente cercando di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Un'Italia che ha gettato la maschera e lo ha fatto non solo metaforicamente Leonardo Bonucci, che pochi istanti fa si è tolto la maschera protettiva, l'ha buttata oltre la linea di fondo alle spalle di Buffon, come a lanciare un segnale a tutta la squadra. È l'ultima mezz'ora per cercare di arricciuffare la Svezia e di ritornare in corsa per Russia 2018. Bisogna dare tutto, è quello che sta facendo Barzagli in questo momento. Il tocco per Parolo sulla destra per Candreva, pochi istanti fa la conclusione l'interista, il tiro deviato in angolo che ha fatto correre un brivido ad Olsen. Svezia che prova ad uscire, ma ancora Parolo a chiudere su Fosberg. Ci sarà rimessa laterale per gli svedesi che stanno soffrendo in questo primo scorcio della ripresa. Intanto è il momento delle sostituzioni. Ventura chiama in causa Belotti ed El Shaarawy. Esce Darmian, quindi El Shaarawy probabilmente andrà sulla stessa fascia sinistra, ed esce Gabbiadini. 18esimo di gioco, Ventura torna al 4-2-4 che tanto ama. Entrano Belotti ed El Shaarawy ed escono Gabbiadini e Darmian per aumentare la pressione offensiva di una Svezia apparsa in difficoltà in questa, come dicevo, in questa prima fase del secondo tempo. Recuperiamo subito il pallone, lo tocca Immobile proprio verso Belotti che lo recupera, allarga per Candreva, il cross, arriva Immobile, la palla sul fondo, peccato, bella azione degli azzurri, il cross di Candreva sul primo pale, il tocco Immobile e il pallone che è terminato sul fondo davvero di pochissimo. Veramente ce la stanno mettendo tutta gli azzurri da quello che si vede qui. Tante però cose non basta, dire, evidentemente, Dario. Quante cose vorresti dire? Dine una, tante Dario. Tante cose potremmo dire potremmo dire. Ma forse questa diremmo. Squadra non ci sta provando. No, ci sta provando, però alla fine io sarò cinico, ma bisogna anche riuscirci contro i risultati. Questa squadra non... Carlo, ma è colpa di questa formazione, è colpa di Ventura, è la Svezia che è particolarmente forte, com'è? Ma no, la Svezia è una squadra di muscolari, di soldati semplici, non certo di generali, tanto più che manca anche Ibrahimovic, cioè il giocatore più rappresentativo, storico della Svezia. È una squadra fisica, ben organizzata, non è certo il Brasile, nonostante i colori che possono ricordarlo. La Svezia rischia di sbatterci fuori dai mondiali, togliendoci una competizione, la possibilità quantomeno di guardare la Coppa da lontano, come è successo nelle ultime edizioni, che non sono state esattamente fortunate, anzi sono state un disastro. Però sarebbe ancor più un disastro non riuscire ad andare nemmeno a vedere da vicino la Coppa del Mondo, cosa che grosso modo si sta concretizzando. La colpa, insomma, se non dovessimo qualificarci ai mondiali, usiamo sempre ovviamente condizionale, siamo ancora Quanto tempo manca? Di speranza più. 65 più insomma 25 più recupero, bisogna fare un paio di gol, non abbiamo fatto uno in una partita più 65 minuti. La vedi difficile? Sì, è possibile. Ovviamente ci stiamo sperando tutti, però ogni minuto che passa diventa sempre più complicato superare la Svezia, la tensione sale, insomma le solite cose, la stanchezza si fa sentire, eccetera, e quindi non so, siamo lì, la cronaca dice 0-0 dopo 65 minuti e 35 secondi, quindi vediamo che capita, poi si potranno aprire tutti i processi del caso. A questo proposito, scusa Carlo, ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di chiamare l'800 24 00 24 per esprimere, farci compagnia anche questa tristezza, diciamo che siamo ancora vivi e lottiamo insieme a tutti voi, ecco. Però comunque ci chiami l'800 24 00 24, può essere che si facciano anche le ore piccole perché in caso di supplementari o in caso di sfigatissima eliminazione, insomma, ci terremo compagnia, insomma, staremo qui insieme per farcela passare. Non so se c'è Giovanni Capuano in collegamento, il nostro Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao Roberta, non ciao Carlo. So, Giovanni... Io non condivido nulla di quello che ho sentito. Meraviglioso. Così abbiamo due versioni, via, due punti di vista. Tu che cosa qual è il tuo punto di vista? Non condivido nulla. Io dico che poi ci sarà tempo eventualmente per fare tutti i processi, c'è una catena di errori se siamo arrivati qui a giocarcela negli ultimi 23 minuti più recupero. E questo non lo nega nessuno. Però, ragazzi, vista la prima partita, visti questi primi 67 minuti, non esiste nessuna ragione tecnica e tattica e nessuna ragione calcistica che possa giustificare che noi si esca e la Svezia vada avanti. La Svezia non gioca a calcio, fa un catenaccio degli anni 50, noi questa sera meritiamo ampiamente di vincere questa partita, di ribaltarla. La Svezia ha vinto all'andata con un rimpallo e oggi ha semplicemente rinunciato a giocare dall'inizio alla fine, ma nemmeno con ordine, perché oramai dalla mezz'ora del primo tempo sta soffrendo. Poi ci sarà tempo per fare tutti i processi. Noi italiani siamo meravigliosi in questo, però se alla fine ci va, meritare o non meritare, alla fine appunto siamo cinici, conta il risultato, quindi... Svezia 1, Italia 0 dopo una partita più 70. Non siete d'accordo. Che l'Italia possa fare di più, per carità, deve fare gol, è ovvio. E non è un particolare da poco, ma insomma, se io penso che in due partite quasi la Svezia ha tirato in porta verso Buffon non più di due volte e ha trovato un gol, e comunque l'Italia, che pur ha mille limiti, gioca male, non ha una trama di gioco vera, spesso gli tremano le gambe, insomma tutti i difetti che abbiamo raccontato in queste settimane, però vicino al gol c'è andata, e come, insomma, c'è anche qualcosa di assolutamente episodico in quello che stiamo vedendo, come il calcio è d'altra parte, perché il calcio è, perché è così pop, perché vale tutto, è imprevedibile, dici, beh, una coerenza ci sarà arrivato. Anche no, con una storia della no, ma perché il calcio piace, intanto continuano a pestare non poco gli svedesi, arrivano cartellini gialli, come all'andata, insomma, giocano fisici, non è che abbiano molte armi in più, è sempre povero Bonucci, che hanno scassato il naso già all'andata, che giocava con la maschera, che ha preso un'altra, non serve manco la maschera, un'altra stecca sul naso. Però insomma, così è, se vi pare. La Svezia ha ragione Giovanni, nel senso che non ci ha fatto vedere molto, se non mezzo tiro in porta con cui ha fatto un gol all'andata. Però sono lì, sono tosti, sono fisici, dici tu, no? Sono fisici, e l'Italia il gol non riesce a farlo. Soffrendo. Poi potremmo fare, e lo faremo nei prossimi giorni, in un caso o nell'altro, mille discorsi tecnici su un'Italia che, Giovanni, non ha tutto questo talento, non ha giocatori che saltano l'uomo. Uno ce l'avrebbe anche, ma è seduto in panchina fin dall'inizio. Ecco, questo ti volevo chiedere. C'è qualcuno che è stato lasciato in panchina che invece sarebbe stato più funzionale? Io a De Rossi in una partita così non avrei mai rinunciato. Perché ha rinunciato Ventura? Perché non sta probabilmente molto bene, però è uno dei senatori, uno di quelli che si giocano l'ultimo giro per andare ai mondiali, insieme ovviamente a Buffon, a Chiellini, a Barzagli, a Bonucci stesso, per tutti per ragioni anagrafiche. E poi, oggetto del contendere, ovviamente, Lorenzo Insigne, giocatore del Napoli, che in questa partita non abbiamo visto, e all'andata contro la Svezia abbiamo visto in un momento, in una situazione probabilmente inadeguata. Quindi Di questo in un caso o nell'altro, ripeto, si discuterà molto, Roberta. Guardavo questo messaggio di Monica che dice: cara Roberta, se abbiamo classificato noi Argentina, quindi si vede Argentina, Monica, perché Effetto Notte è ascoltato in tutto il mondo, dice anche l'Italia ce la farà, complimenti a tutti i convocati, a te ovviamente, eccetera, eccetera. Vedo dei bei colori in campo, questa volta vedo il bello azzurro degli azzurri, il giallo degli svedesi, il fucsia degli arbitri. Giovanni. Cromaticamente ti piace? Sì, mi piace Giovanni, secondo me non c'è neanche fatto caso al fucsia degli arbitri. No, no, il fucsia no, però ti dico che questo arbitro spagnolo ha battuto una specie di record mondiale, però attenzione perché siamo lì, siamo lì che ci stiamo provando ancora dentro l'area di rigore, insomma, non vedere 4 rigori netti, 2 per parte, così insomma l'abbiamo raccontata tutta, nei primi 55 minuti di partita è qualcosa che veramente... veramente fa anche ragionare sulla qualità media di questi direttori di gara. Quello dell'andata aveva arbitrato male, anche se non va preso come alibi, questo fa parte degli episodi, perché poi ognuno la racconterà a modo suo. L'Italia potrà raccontare che se fosse stato dato il primo dopo 10 minuti la partita sarebbe cambiata immediatamente, la Svezia ne ha reclamato un paio e c'erano, e il che è vero, ma fa parte dell'essere episodico. Intanto è passato al 4-2-4 Ventura, per quelli che se ne intendono significa che è tornato al modulo più offensivo possibile, che poi è quello che gli piace, dentro Belotti, che a me nel primo tempo è mancato tantissimo, ma siccome è stato fuori un mese per infortunio e poi che facesse 2 partite intere in 72 ore era qualcosa di impensabile, e dentro anche il Sharawi, che è un altro che non gioca da parecchio in nazionale o comunque ha giocato pochissimo, segna un po' di improvvisazione, e questo fa parte del processo, però questa sera l'Italia merita di vincere e di passare. Giovanni, allora ricolleghiamoci con Dario Ricci, che è proprio lì a San Siro. Dario? 27esimo di gioco, ultima sostituzione per la Svezia, è entrato Roden, giocatore del Crotone, al posto di Klesson, uno dei più positivi per quanto riguarda i gialloblu. Italia che prova a rispingersi in avanti, ma pallone in questo istante nella zona di centrocampo amministrato dagli svedesi con Larsson, il lancio verso Forsberg, il tocco che arriva a Berg, anticipato però da Bonucci, e l'azione azzurra può ripartire da Gigi Buffon, che appoggia su Chiellini e si incarica di portare avanti il pallone lungo il laterale sinistro dello schieramento offensivo azzurro, palla che però ora arriva dall'altra parte ed è allora ancora Bonucci che prova ad impostare, azzurri che stanno tirando un attimo il fiato, palla che arriva lungo l'out destro a Candreva, che scambia ancora con Bonucci, tutti sul secondo palo gli attaccanti azzurri. Candreva intanto si incunea, il cross al centro, anticipato Belotti, ma Esharawi recupera il pallone, il cross ancora al centro, Belotti era però di spalle, libera Granqvist e poi Telin, che poco istanti fa è stato ammonito proprio per il fallo su Bonucci che descrivevate da studio, prova a rinviare, palla ancora agli azzurri, ancora su Candreva, davvero instancabile, non sempre preciso, ma forse è inevitabile che sia così visto la gran mole di gioco che ha fatto il centrocampista esterno interista, che ancora una volta è chiamato in causa, prova a spingersi dentro l'area dentro la zona offensiva svedese, un diagonale destro debole, troppo telefonato per Olsen, che si accartoccia sul pallone e fa respirare i suoi. Quando siamo al 29esimo di gioco, 16 minuti più recupero per trovare questo gol che a questo punto almeno ci regalerebbe i supplementari della speranza. Dario, ma dimmi una cosa, a San Siro ci crede ancora oppure no? Qual è il clima? Devo dirti oltre sì, al freddo. Oltre al freddo. Devo dirti sì, invece un San Siro caldo che incoraggia e esalta le fiammate degli azzurri. È chiaro che quando, come è accaduto pochi minuti fa, la squadra è andata in forcing, ha avuto un paio di mezze occasioni o di buone occasioni e il pubblico subito l'ha sostenuta. Insomma, è un San Siro che ci crede e che ha a fianco a questa squadra. Da questo punto di vista davvero una bella serata, anche se vanno stigmatizzati i buu che abbiamo sentito durante l'esecuzione dell'inno svedese. Infatti, che sì, ormai stanno diventando veramente una brutta abitudine nelle partite della nostra nazionale. Calcio di punizione per gli azzurri, Florenzi dalla tre quarti, la palla centro area, anticipato da Svensson, Belotti, ma Laoz, che forse è il vero protagonista di questa sfida, per molti aspetti, sia per quello che ha fischiato, per quello che non ha fischiato, ma anche per l'atteggiamento davvero proprio torero. L'arbitro in fucsia, intendi? Sì. Ah, ecco. Non è fucsia però, non è fucsia. Come no? Roberta, che colore è? No, è leggermente un rossastro strano. Sì. Tu lo vedi meglio da lì, io lo vedo dalla televisione. Ma non è male quella maglietta, eh? Io la metterei. Vero? Sai, carina, sì. Diciamo che ti fa notare, non passi inosservato. La Oz probabilmente l'avremmo notato lo stesso, perché comunque è un arbitro che ama avere riflettori su puntati. Di sé. Non è stato però, sì, insomma, ha sbagliato tutte e due le parti, come ricordava prima Giovanni Capuano. Passiamo al trentesimo di gioco, ancora Bonucci ad impostare all'altezza del centrocampo. È sparito in questa seconda parte della partita Jorginho, che pur con un po' di confusione comunque aveva provato a dare ritmo nei primi 60 minuti di gioco. Jorginho proprio, tocca il pallone per Barzagli in posizione centrale, per Belotti al limite dell'area, l'appoggio per Florenzi fuori misura e la Svezia trova un fallo laterale che gli permette di allentare la pressione azzurra. Svedesi che poi chiaramente ci ricamano sopra, ci metteranno un quarto d'ora per tirare questo fallo laterale, ma d'altra parte in Russia loro si vogliono andare e finora hanno segnato quel gol. Ultimo cambio, ultimo cambio per gli azzurri, esce proprio Candreva, entra Bernardeschi, davvero encomiabile la prova di Candreva, che ha fatto veramente quantità e qualità, bisogna dire, andando vicino anche al gol al 26esimo con un diagonale sotto misura che è finito sopra la traversa. Aspetta ora Bernardeschi, allo juventino Bernardeschi, provare a fare almeno la stessa cosa sulla destra per alimentare l'attacco azzurro. Praticamente adesso abbiamo quasi 5 punti, ma è chiaro, bisogna giocarsela fino in fondo. Jorginho appoggia a El Shaarawy sulla sinistra, subito braccato da tre svedesi, prova il tocco centrale per Parolo, la palla però carambola sui piedi di Berg, bravo Parolo a recuperare il pallone e a passare, che arriva del Shaarawy che riapre ora proprio Bernardeschi, spostatosi sulla sinistra a scambiare con Chiellini, cerchiamo di arrivare sul fondo e ci riesce Chiellini, il cross al centro di Chiellini, libera la difesa Florenzi, il destro di Florenzi, niente, il diagonale alto e Chiellini a terra, che sembra essere stato colpito da Chiellini in questa fuga sulla sinistra del centrale azzurro, sì, della Juventus. Poi io aggiungo un dettaglio, dato 0-0 e il tempo continua a correre, aggiungo un dettaglio tecnico che non porterà nessuno, io e la mia amica Roberta Giordano stiamo soffrendo come pazzi, anche perché per un ritardo della televisione ci arriva, infatti, la fine dell'azione dopo che Dario la raccontate, quindi perdete ogni speranza voi che entrate qui in studio, infatti, anche se avete freddo, perché Carlo Genta è così teso per questa partita che ha alzato al massimo l'aria condizionata, io sto barbellando adesso, te la spengo praticamente. No, te la spengo in diretta. Senti, no, ma Carlo, può darsi che sia un muro il portiere svedese? No, il portiere svedese, insomma, bravo, però non è che si è tirato tantissimo in porta, abbiamo avuto diverse occasioni, ripeto, però tutte le abbiamo fallite tutte. Io posso chiedere anche a Giovanni Capuano cosa ne pensa, Giovanni, della gestione di questa partita, anche per quanto riguarda i cambi? Ma io penso che, guarda, che alla fine Ventura abbia scelto di fare di testa sua, quindi sta fuori Insigne, e lui sa che su questa cosa sarà lapidato se dovessero andare male le cose, ma sarà secondo me lapidato anche se dovessero andare bene in questi ultimi minuti, però complessivamente lui, insomma, sugli esterni questa sera l'Italia ha sfondato, c'è poco da fare, ha creato occasioni e quindi è andata spesso in superiorità numerica, e quindi il copione tattico ha anche senso che rimanga uguale. Candreva è stato il giocatore che credo ha corso di più, aveva bisogno di un cambio, l'esterno era Bernardeschi, e quindi c'è anche un senso tattico e di coerenza in tutto questo. Nella confusione, nel casino degli ultimi due mesi della nazionale, che ripeto, per il processo ci sarà assolutamente tempo e ci sono dei capi d'accusa che sono credibili, attenzione perché c'è ancora una protesta italiana per una caduta in area di rigore, questa volta di Belotti. Poi la rivedremo, secondo me questa non è rigore, però così, data un'occhiata a velocità normale. Però ecco, io ci trovo tutta una coerenza, e sulla gestione dei cambi è evidente che Belotti probabilmente più di mezz'ora non può dare, e tra l'altro c'è anche la prospettiva eventualmente di giocare i calci, di giocare i tempi supplementari. In che caso ci saranno i tempi supplementari? Se l'Italia nessuno fa gol? Se l'Italia fa un gol. Cioè, se si vince 1-0, 1-0 là, 1-0 qui, si va ai supplementari. Abbiamo... Se rimane 0-0, niente... 0-0 si sta a casa, cara Roberta. Guardiamo i mondiali degli altri, come è successo appunto per la prima volta e per l'ultima volta nel 1958, quindi noi... Quindi dopo dobbiamo... Siamo anche, per fortuna, siamo ancora abbastanza giovani per non ricordarci un mondiale senza l'Italia. Quindi dici che era meglio guardare la corazzata Potionchi che stanno dando a Roma, al Cinema Sacher? No, che per carità, no. Cioè, per quella c'è tempo, stasera, poi eh? Sì, andremo a vedere con la ragione Rugo Fantozzi, ma buon'anima Paolo Villaggio, ma la Svezia, io darei la linea a Dario Ricci però. Dario! Il cross di Forsberg, la Svezia ci prova in contropiede. Non bisogna mollare in questo momento, ragazzi, mi viene da dire così agli azzurri, mancano 10 minuti più recupero, bisogna provare veramente a dare tutto. Bonucci ha perso un pallone a centrocampo e esausto, non ha ricorso l'avversario, è partito un contropiede orchestrato da Forsberg, fortunatamente Berg ha sbagliato l'ultima sponda e gli azzurri hanno potuto recuperare il pallone. Parolo adesso ancora verso Bonucci, il grido di San Siro, lo chiedevate, ecco, sentitelo. Barzagli nel cerchio di centrocampo, ancora per Chiellini, si propone Giorginio, e Sharawi invece viene innescato sulla sinistra, Lustig lo chiude, sarà rimessa dal fondo per gli svedesi e Lustig si butta a terra proprio vicino ai tabelloni pubblicitari, provando a lucrare un'altra quindicina di secondi che male non fanno verso il 90esimo per far festa poi a Stoccolma e dintorni. Il rinvio dal fondo quando siamo al 35esimo e 46 secondi da parte del portiere Olsen, 27enne portiere del... E mancano una decina di minuti, Carlo. Mancano 10 più recupero, 800-24 0024 è il numero verde. Staremo qui a parlare con gli italiani, già, io credo, già. Dopo il 90esimo, perché se va così, se sta a casa del mondiale, certamente è una notizia, direi, storica. Negativamente storica per il calcio italiano. E che ognuno può commentare come vuole, chiamando, come ricordava Carlo, 800-24-0024. Prenotatevi già, forse c'è la pubblicità adesso? Non c'è nessuna azione proprio cruciale, possiamo mandarla? Non rischiamo gol? Andiamo alla pubblicità? Andiamo. Sì, a dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ebbene sì, Effetto Notte continua ad andare avanti in questo speciale, Roberta Giordano sempre con voi. Questa seconda ora la stiamo dedicando tutta alla partita decisiva Italia-Svezia per le qualificazioni mondiali 2018. A San Siro c'è il nostro Dario Ricci, qui in studio con me Carlo Genta, lo sentite tutti i giorni a tutti i convocati, e poi Giovanni Capuano, anche lui è in collegamento. Colleghiamoci con Dario, sempre lì allo stadio. Dario! 41esimo di gioco, ancora 0-0 pochi istanti fa. Belotti, un sinistro di Belotti a spegnersi sul fondo senza impensierire Olsen, ma Azzurri ancora in avanti, e ora Esharawi che recupera il pallone per Barzagli che appoggia su Bonucci lungo la tre quarti destra, lo scambio del difensore del Milan con Parolo, la palla che arriva a Florenzi, il cross al centro, Bernardeschi di testa, arriva la palla, Esharawi, il tiro, la parata di Olsen sul testo del milanista, ma l'Italia rimane in area di rigore, lo scambio tra Esharawi e Chiellini, ancora Esharawi col pallone lungo l'out sinistro dell'area di rigore, il cross di Chiellini ancora in area di rigore, libera la difesa con Augustinsson e ancora Italia in forza quando siamo al 41esimo e 46 secondi, Chiellini verso Esharawi, chiude Roden e sarà fallo laterale ancora per l'Italia, azione che già riprende, Chiellini ancora a crossare al centro verso Belotti che sfiora di testa sul pallone, si avventa Florenzi che riesce a crossare al centro, il colpo di testa di Parolo ancora sul fondo, insomma ci provano Carlo, ma a trovare questo gol, non riusciamo a trovare questo gol nell'ultimo minuto e mezzo, prima il Sharawi con la splendida risposta di Olsen, poi il colpo di testa di Marco Parolo a terminare sul fondo, 42esimo e 25 secondi in questo istante, 2 minuti e mezzo più recupero per rimanere in corsa per Russia 2018. Olsen si prende tutto il suo tempo per completare questa rimessa, effetto adesso direttamente quanto il palo laterale, Carlo? Bellini il recupero il pallone dalle interruzioni. Io credo che ci saranno, Giovanni correggimi se sbaglio, 3-4 minuti di recupero, considerate le sostituzioni Giovanni che sono state da tutte e due le parti. Mi sorprenderei meno di 4. Anch'io mi sorprenderei meno di 4, però insomma è vero, abbiamo provato in tutti i modi e le maniere, resta il fatto che rimaniamo sullo 0-0. Non so, Giovanni, se poi potremo appellarci alla sfortuna o a qualche cosa di astrologico di stellare. Sentiamo ancora Dario che siamo lì proprio in area. Sì. Dario? Il cross al centro respinge la difesa svedese. Ormai 21 giocatori nella metà campo svedese, solo Gigi Buffon nella metà campo azzurra, ma anche lui si muove ormai all'altezza del centrocampo. Barzagli prova a rilanciare dal fondo verso l'area di rigore dei gialloblu. Parolo prova a farla sponda e Florenzi si avventa sul pallone, l'ultimo tocco però è suo e sarà ancora fallo laterale per la Svezia vicino alla bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra della porta difesa da Olsen. Andrà ora Augustinsson a rimettere in gioco quando siamo al 43esimo e 55 secondi. Il pallone subito recuperato dagli azzurri con Bernardeschi che prova a farsi largo sulla destra, scambia con Florenzi, ora Parolo palla verso il centrocampo a Barzagli che riapre, appoggia nuovamente su Chiellini e arriva ora il pallone a El Shaarawy che riappoggia verso il centro per Barzagli, il tocco per Parolo, il lancio in profondità chiuso ancora una volta dai difensori svedesi, l'attacco azzurro, Parolo lotta al limite dell'area. Siamo agli ultimi minuti. Spazio ribatti e Fosberg calcia il pallone a più lontano possibile. Dal 90esimo. C'è il pallo di Barzagli su Berg. Attenzione perché Barzagli già ammonito, ma a questo punto conterebbe davvero poco. 44esimo e 42 secondi, 15 secondi alla fine del tempo regolamentare. 0-0 ancora tra Italia e Svezia. È davvero... Se non c'è il gol nessun supplementare. Sembra un miraggio. La Russia da qui sembra un miraggio. Sì. Vedremo fra poco quanti minuti di recupero assegnerà la Oz. Ecco l'assistente di campo che sta per sollevare il tabellone. 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero. Ma siamo già al 90esimo. Siamo già al 90esimo, siamo già oltre il 90esimo e i 5 minuti di recupero sono. Che miracolo sono dovrebbe inizio. Succedere? Beh, deve segnare un gol l'Italia per andare poi ai supplementari. Questo è quello che deve succedere e speriamo che possa ancora succedere. E a proposito di numeri, 800240024, perché ho l'impressione, Roberto, che faremo mezzanotte per parlare con gli ascoltatori soprattutto, perché credo che in serata come questa, se andrà a finire così, è il caso di farsi compagnia. Sì. Fateci compagnia, facciamoci compagnia, parlate insomma delle vostre sensazioni, dei vostri commenti, della vostra lettura di questa partita, naturalmente. Questi sta passando, sì, 90esimo. È passato il 90esimo e siamo già quindi vanno avanti direttamente quei 5 minuti di recupero. Sì, ne mancano 4, Dario Ricci, 4 minuti. Senti che boato. Eccoci. Primo minuto è andato. Ancora 4. Minuto è andato, è Jorginho ora che sta rimpostando sul centrocampo, c'è stato un nuovo contrasto dubbio in area di rigore svedese, probabilmente con un nuovo tocco di mano. La Oz però non è intervenuto e ora i giocatori azzurri fanno capannello intorno all'arbitro spagnolo che ammonisce Immobile per proteste. C'è stato intanto un intervento molto deciso di Bernardeschi che viene a sua volta ammonito su, non riesco a individuare il nome dello svedese, a terra. Sarà complicato come al solito. Sì, non abbiamo visto neanche il numero, quindi è un po' difficile capirlo. È biondo. In tutto ne sta abbastanza difficile. Larsson che è stato falciato da Bernardeschi e come al solito gli svedesi ci mettono un bel po' per rimettere in gioco il pallone. È il momento degli ultimi assalti, se l'Italia ne ha ancora di forza e di voglia. Anche Bonucci ormai praticamente stabilmente nella metà campo offensivo come ulteriore centravanti aggiunto. Restano 3 minuti i palloni alti, 3 minuti alla fine quando Olsen va a calciare questa punizione abbondantemente fuori dalla sua area di rigore. Cerca inevitabilmente il laterale destro, ma con fin troppa precisione perché trova solamente il pallo laterale. Quindi Chiellini rimette in gioco, libera Svensson. Due palloni in campo in questo istante, ma si continua a giocare. Florenzi allora lancia ancora in profondità dalle retrovie proprio verso Bonucci che non riesce a intercettare, ma recupera il pallone. Chiellini che prova a fare anche il trequartista. il cross di Quellini, Granqvist, virgola in calcio d'angolo, tutti avanti, anche Buffon, è il segno della disperazione. Ricordiamo di averlo visto in area di rigore anche a Natale nella maledetta partita con l'Uruguay in Brasile 2014. Cross al centro, proprio verso Buffon, che non arriva sul pallone, il destro. No, sta giocando Buffon, non si è mai visto una cosa del genere. Destro di Jorginho, che finisce sul fondo e viene ammonito anche Olsen, il portiere svedese, per le ormai innumerevoli perdite di tempo. Credo che non manchi più di un minuto e mezzo alla fine. Uno e mezzo, sì. Anche Buffon su quest'ultimo calcio d'angolo, e quasi la sfiorava di testa, quasi avrebbe, stava per catturare questo pallone che poi è arrivato a Jorginho, il destro dal limite dell'area del centrocampista del Napoli sul fondo. Anche questo, come tanti troppi innumerevoli tiri azzurri questa sera, soprattutto nella seconda, a partire dalla seconda metà del primo tempo. Ci proviamo ancora, Parolo di testa, peccato perché avrebbe avuto lo spazio per controllare, adesso il qualcuno già non corre più, brutto segno. Fosberg sull'auto sinistro prova a congelare il pallone, lo strappa proprio Jorginho. Ripartiamo per quello che forse è l'ultimo assalto, la palla a Barzagli, Chiellini, mancano ancora almeno 60 metri da fare, il lancio in profondità verso Belotti, no, verso lo stesso Bonucci, colpito da crampi, si allunga, il pallone arriva ad Olsen, va a prestarlo immobile e il portiere svedese si sdraia sulla palla e ora va a rimetterla con tutta la calma del mondo. 30 secondi, non di più, alla fine di questo Italia-Svezia, e ci serve ancora un gol per poter continuare a sperare in un mondiale che davvero adesso è lontano come un miraggio. Dario ci spera, riprende Dario. Il pallone, Barzagli riprende il pallone, il lancio in profondità, ancora verso Bonucci, la spizza, immobile al limite dell'area, verso Parolo, il tocco verso Florenzi, il cross al centro deviato, ancora Florenzi, il tiro deviato in calcio d'angolo, ultimo calcio d'angolo, ultima speranza, tutti in area, ancora Buffon, povero Dario. Perché ha fatto il segno, già ha parlato con la Oz, se la palla uscirà fischierà immediatamente la fine l'arbitro. Veramente abbiamo un unico pallone, un'ultima occasione per un gol, baci al pallone, questa sera avrebbe meritato il calcio d'angolo di Florenzi, anche Buffon in area, la respinta al limite dell'area, il tiro contrato, il fuori gioco ed è finita in tutti i sensi. Siamo fuori dal mondiale, San Siro gelato, fanno festa solamente i svedesi, tifosi svedesi, gli azzurri tutti disperati, sdraiati nell'area di rigore svedese, finisce 0-0, in Russia ci va la Svezia, noi dopo 60 anni restiamo a casa. Sarà una lunga notte questa di San Siro. Sì, purtroppo sì, ma purtroppo. Anche per noi comunque, vi dopo davvero staremo insieme fino a mezzanotte, quindi 800 24 0024, perché abbiamo voglia soprattutto di parlare con voi. Io chiederei un ausilio tecnico, quello di insomma cercare di capire le parole di Ventura, visto che non possiamo far ascoltare attraverso la tele per ragioni, forse Giovanni Capuano anche le sentirà, per ragioni tecniche sarà interessante conoscere le prime parole di Ventura. Secondo te che fa adesso Ventura? L'ex allenatore della nazionale, cioè non ci sono alternative. Saluta anche lui, ma questo è chiaro, ma credo che insomma sia il momento della rifondazione totale, no? Il momento più basso del calcio italiano da sessantenne a questa parte. Rimaniamo fuori dal mondiale, poi possiamo discutere di mille cose, sfiga compresa, però è giusto così in fondo, per come sono andate le cose, e anche la fine di una generazione di giocatori, tra cui appunto Gigi Buffon, che inseguiva il sesto e ultimo mondiale, tra cui i senatori di questa squadra, alcuni dei quali hanno alzato la Coppa del Mondo. Però io non mi sento di dire che questa esclusione sia immeritata per l'Italia, perché è stato un percorso iniziato benino e poi crollato dal momento della... Cioè qualcuno piange. Sì, Belotti piange, vabbè, ma è chiaro, insomma, è il momento della tristezza più profonda, perché... Chiaro. È comunque un risultato storico negativo, sì. Ovviamente per 60 anni che non succedeva per il calcio italiano. Giovanni Capuano non sarà d'accordo con me nella... Giovanni magari ottimista lo stesso, lui diceva io credo che vadano distinti due piani, cioè se noi usciamo è colpa nostra, ed è colpa nostra per la catena di errori che ci hanno portato qui e che questa sera poi uniti a una serie di episodi hanno portato a questo pareggio che ci spedisce a casa. Poi se analizziamo i 180 minuti non esiste nessuna ragione per cui la Svezia vada avanti e noi fuori. Questo attiene agli episodi, attiene. E allora che ragioni dai, Giovanni? Anche alla sfiga, va detto, perché insomma, sai, io credo, ma lo credo, e se l'è sicuramente meritato. Ventura gode anche di pessima stampa, con oggi ha chiuso, e io credo che la sua carriera sia stroncata per sempre. Perché questo è quello che succede ai CT che falliscono in maniera così fragorosa, clamorosa. E forse è anche giusto così. Però bisogna dirlo, nei 180 minuti con la Svezia l'Italia ha mostrato di poter ampiamente superare questo turno, e io credo che chi, e domani leggeremo di tutto, ma chi anche in questo momento sui social si sta scatenando negando l'evidenza, ad esempio, di una partita, quella di stasera, che è finita 0-0 per una serie di episodi, lo faccia fondamentalmente per un pregiudizio e per una sorta di accanimento verso un uomo che si è giocato da solo il suo destino. Quindi, per carità, ognuno non mi accanisco, per carità, è un bravissimo allenatore, è una splendida persona, Gian Piero Ventura, è stata una scelta che si è rivelata sbagliata. Io non mi sento di dire che siamo fuori dai mondiali per pure banale sfiga, perché alla fine non è così. Il calcio è aleatorio, come piace dire a Pardo, che tra poco chiameremo, è materia liquida, è legato alle stelle, tutto quello che si vuole. Stasera si meritava di vincere, però il succo è che contro una squadra non resistibile come la Svezia siamo fuori dai campionati del mondo. Quindi era una squadra terribile, dici Carlo, la Svezia. Che storia ha la Svezia? La Svezia è una storica squadra del calcio europeo e mondiale, che però insomma non è brillato in modo eccezionale. La corazzata Potionchi, soprattutto ora che non ha più il suo giocatore simbole, cioè Zlatan Ibrahimovic. È una buona squadra di buoni giocatori, molto fisici, muscolari, disciplinati, soldati semplici, però non sono degli strateghi, dei geni, dei fantasisti. Io continuo a pensare che l'Italia magari li sopravvaluto questi, anche sarà un argomento di discussione, però continuo a pensare che dal punto di vista della qualità l'Italia sia più forte della Svezia, su questo possiamo essere d'accordo. A proposito di discussione, come diceva Carlo Genta, noi adesso ci prendiamo proprio un minuto di pubblicità e quindi di pausa, ma voi cominciate a chiamare l'800 24 00 24. Non c'è bisogno di essere appassionati di calcio, la nazionale di solito coinvolge un po' tutti, anche Buffon piange, poverino. Quindi se avete le vostre sensazioni, la vostra lettura di questa partita, l'ho parlato già Carlo Genta, Giovanni Capuano, e continueranno a parlare. C'è Andrea da Bologna già tra pochissimo, poi vedremo anche che fa Ventura. Qualcuno dice come lascerà lo stadio Ventura. Beh, adesso al di là delle battute, chiaramente avrà fallito, se ne andrà a casa, gli dispiacerà. Buffon piange veramente, devo dire, lo vedo disperato, però ci sentiamo tra pochissimo. È lo sport. È lo sport. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sono passati ben più di 60 minuti, cara ascoltatrice, cara ascoltatore, Roberta Giordano sempre con voi in questa puntata specialissima di Effetto Notte, che a questo punto andrà avanti sino a mezzanotte. L'avevo detto all'inizio, se l'Italia non ce la dovesse fare, non è la questione di scaramanzia, non è che io ho portato, era comunque incerta, l'andata si era persa 1-0, bisognava battere la Svezia con due gol di scarto, non ne abbiamo fatto manco uno. Non c'è stato, quindi vari tentativi, ma nulla è andato in porto. C'è Buffon che sta parlando, dicevamo prima, disperato. Tutto l'impegno complessivamente, abbiamo avuto l'illusione che fosse facile, non lo era. No, quello no, non abbiamo sottovalutato niente, perché chi gioca queste partite, chi le ha giocate, sa cosa vuol dire affrontare queste squadre, sa cosa vuol dire, sa quanto dispendioso sia fisicamente recuperare un gol a livello mentale, a livello psicologico. E quindi sottovalutato non sicuramente, probabilmente non si è riusciti a esprimere il meglio, di quello che avremmo potuto fare. Cosa dice Buffon? Carlo, questa era l'ultima chance per Buffon, l'ultimo mondiale, no? Sì, quanti anni ha? 38, 39. 38, vediamo se riusciamo a pizzicare qualche altra battuta di Buffon con la Rai. Ha fatto una gara come quella dell'andata, è stato uno spareggio che si è deciso per degli episodi che a loro sono andati bene, a noi sono andati male. Però quando ti van male gli episodi è perché probabilmente hai delle colpe, e quando ti van bene vuol dire che è meritato. Il calcio italiano non giocherà il mondiale, non vivremo il mondiale da protagonisti. ma c'è ancora un futuro per il calcio italiano, ripartendo da questa sera. Non è facile, ma c'è ancora futuro per questo calcio. Ma sicuramente, futuro c'è perché noi abbiamo orgoglio, abbiamo forza. Siamo testardi, siamo caparbi e dopo delle brutte cadute troviamo il modo di rialzarci. Sì, resta... quindi... Questo sta dicendo Buffon, sì, Carlo Genta. Resta un cumulo di macerie, ovviamente, del calcio azzurro, resta un cumulo di macerie. Al di là dell'orgoglio e della forza e della voglia di rialzarsi. Si erano usate parole tipo catastrofe, disastro, questo sarebbe stato non andando ai mondiali, la catastrofe sportiva, calcistica. Si è verificata, è ovvio che si dovrà ripartire da ground zero calcistico, naturalmente, non confondiamo il sacro col profano, le cose serie con quelle, con i passatempi, con lo sport, con i passatempi, come è giusto che sia, però sai, ci sta la parola che vale per tutta l'Italia, uno shock sportivo, mettiamo, certo, un shock dramma sportivo, sportivo mi pare, sh- beh, mi pare, sai, ottimo, perché così è, Roby, non abbiamo mai visto un mondiale, noi senza gli azzurri, chi ha meno di 60 anni non l'ha mai visto, quest'estate toccherà chi è interessato a vedere, guarderemo gli altri, poi sono mille risvolti e mille profili che verranno analizzati, comprese perdite economiche, questa partita, questo passaggio mondiale valeva un centinaio di milioni per la Federcalcio, poi c'è la storia dei diritti televisivi, adesso voglio vedere chi se li compra, chi fa vedere i mondiali e quanti riguardano. Quindi anche perdite economiche, insomma. E beh, sì, ma questi sono risvolti collaterali, adesso rimane l'amarezza sportiva per questo risultato. Poi Buffon è stato molto onesto, è vero quanto ha detto, siamo andati fuori per episodi, perché così è, però insomma, poi risultato... sai come dice il proverbio, che a causa del suo mal pianga se stesso, e lui non piangeva so, parecchio. Allora vedo varie ascoltatrici, sì, vari ascoltatori che sono in linea all'800 24 00 24, e c'è anche questo ascoltatore su WhatsApp, SMS e poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice questo ascoltatore: un po' ci godo per l'uscita dell'Italia dai mondiali, così finalmente ci togliamo dai piedi Ventura e magari anche Tavecchio. Giovanni, qualcuno forse lo sperava, Giovanni Capuano? Guarda, intanto vi do una notizia, nella parte che non avete sentito, Buffon di fatto ha annunciato che chiude con la nazionale, perché ha detto dispiace per tutti, dispiace aver fallito. A questo punto. Esatto, dispiace che, e ha detto, parole testuali, che l'ultima partita ufficiale coincida con una serata così, e quindi insomma di fatto ha annunciato che la sua avventura con la nazionale si chiude questa sera dopo 175 partite, le lacrime insomma le avete viste. Vogliamo sentire già qualche ascoltatore. Andrea da Bologna all'800 24 00 24, in questo effetto notte speciale che va avanti fino a mezzanotte, visto che l'Italia ha perso e ognuno insomma dirà la sua. Andrea, di la tua. Ciao Andrea. Sì, pronto, eccoci. Salve, guardi, io niente, chiamavo per dire che almeno in questo momento dobbiamo mettere, diciamo, sul banco delle persone da processare sicuramente il presidente Tavecchio, che ha dimostrato, oltre ad essere, diciamo, ma questo non è un suo errore, una persona fortemente antipatica, anche il portatore di idee vecchie e di situazioni che hanno portato a un collasso storico della nostra nazionale. Sì, quindi credo che la prima cosa con un che dovrebbero fare però, i tifosi, Andrea, gli italiani. Pronto? Sì, Andrea, sì, con un distinguo, perché... possiamo serenamente dire che la scelta di Ventura non è stata appropriata, non è stata adeguata, però non dobbiamo neanche, perché è cronaca e storia recente, dimenticare che è stato Tavecchio ad avere la prima eccellente idea di Conte commissario tecnico, questo per la cronaca, no? Mm. Dice ingeneroso Andrea? No, però per essere onesti fino in fondo. Io non lo so, però francamente avere un personaggio come Tavecchio alla presidenza del nostro calcio è qualcosa di francamente aberrante, una persona che non ha nemmeno la capacità di parlare l'italiano e che noi facciamo gestire il nostro calcio, è il sintomo semplicemente perché è ben, diciamo, intrallazzato col gruppo di persone che lo votano, ma è una situazione aberrante, a livello di immagine è zero. Ma dai risultati che c'è stato anche a livello di competenza, sì, è vero, perché è un fallimento storico. Sì, no, ma certo, però ricordo anche altri presidenti che non erano il massimo della... capacità di eloquio, non si sta in paradiso a dispetto dei santi, te lo ricordi, no, Capuano, chi l'ha detto? Però se posso permettersi, io capisco l'amarezza di questo momento, è l'amarezza di tutti. Si cerca il capro espiatorio, insomma. Metaforicamente Ventura, gli italiani, Tavecchio, insomma, finiscono tutti sul banco degli imputati, anche giustamente, perché alla fine sono loro ad aver mancato l'obiettivo. Però ci vuole un attimo di misura. Non c'è niente di aberrante nei 2 anni e mezzo di conduzione della Federcalcio da parte di Tavecchio. Non è una persona indegna, è una persona che forse dal punto di vista comunicativo non è il massimo, ma questo lo sapevamo da prima che lo votassero. Noi, ad esempio, ci eravamo anche spesi in prima battuta, dopodiché, insomma, la conduzione della Federcalcio non è solo la conduzione nazionale, sono milioni di persone che tutte le domeniche, tutti i sabati, tutte le settimane giocano a calcio, sono i bambini, sono i dilettanti, e insomma il giudizio deve essere un po' più ampio e perdonami Roberta, anche un po' più misurato. Si parla alla radio e insomma ognuno faccia anche conto che le parole pesano. Sai, però Giovanni, è chiaro che l'avventura di questo gruppo con una situazione di questo tipo è evidente che andrà finendo, compresa la presidenza di Tavecchio, cui va riconosciuta, appunto, al di là della gestione del Federcalcio, in cui non c'è stato nulla di aberrante, va riconosciuta la scelta di Conte come commissario tecnico, e con Conte era stata una buona Italia con giocatori non molto diversi da questi. Poi da lì nella fase successiva le scelte sono state sbagliate. Poi possiamo ricordare anche che doveva esserci Lippi accanto a Ventura, poi non c'è stato. Che fine ha fatto Lippi? Non si vede più. Doveva essere, insomma, fare il tutor in qualche modo di Ventura, poi per ragioni di regolamenti non ha potuto ricoprire questo ruolo, ed è stata una perdita importante, perché la nazionale italiana comunque ha bisogno di un totem, di un leader in panchina o vicino alla panchina. Grazie Andrea. C'è Luigi da Pistoia, continuate a fare il numero 800 24 00 24. Anzi, perdonami Luigi, mi dicono che abbiamo adesso, ci dobbiamo interrompere brevemente. Luigi, tu ci sei? Sì. Ci sentiamo, guarda, paziente ancora un pochino, ci sentiamo tra poco, tanto andiamo avanti fino a mezzanotte, ce n'è di tempo, 800 24 00 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Che delusione, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Roberta Giordano sempre con voi in questo effetto notte specialissimo, molto lungo, in gran parte dedicato a questa partita soffertissima Italia-Svezia, che doveva essere quella decisiva per la qualificazione ai mondiali della nostra nazionale, ma siamo fuori dai mondiali, come ci conferma il nostro Carlo Getta. C'è qui la squadra di tutti i convocati, che sentite tutti i giorni qua a Radio 24 dalle 14 alle 15, il nostro Carlo Getta, e poi ci sono in collegamento Giovanni Capuano, anche Pierluigi Pardo. Ci ha aggiornati finora dallo stadio di San Siro Dario Ricci, che adesso sta raccogliendo altre interviste. Carlo, abbiamo anche molti ascoltatori e ascoltatrici, il numero verde 800 24 00 24 per raccontare la vostra amarezza. Sì, vorrei chiedere come sta Pardo. Sì. Pierluigi, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Come andiamo? Male. Hai pianto anche tu? Hai pianto? No, non ho pianto, onestamente, perché no, ma anche perché non, ti dico la verità, non ho pianto anche perché poi di fondo non ci ho neanche creduto troppo, nel senso che non è stata neanche un'eliminazione beffarda, è stata un'eliminazione dove eravamo noi a sperare di trovare un gol, un episodio nel finale, e quindi voglio dire, se avessimo fatto 2-0 e poi gol su un autogol sfortunato del 2-1, forse sì, forse non avrei pianto, ma insomma sarebbe stato qualcosa più simile. Però io ho detto eliminazione meritata, poi è chiaro, anche sì, con Giovanni discutevamo, cioè poi possiamo parlare di episodi, il fatto che è stata una doppia sfida da questo, però non puoi dire siamo sono state due partite complessivamente equilibrate, potevamo passare noi, potevano passare loro, ma questo è grave, perché voglio dire, cioè, esserti ridotti in questa condizione. Dicevamo un fatto storico, no? Perché non succedeva dal 1958. 60 anni, così. Non succedeva che l'Italia andasse mondiale. Probabilmente nessuno di noi era nato, qualcuno dei nostri ascoltatori, a cui mandiamo un bacio, era nato, e facciamo i complimenti per l'esperienza, insomma, però no, è una grande delusione, a me dispiace, perché comunque secondo me il ciclo di questa nazionale non era tutto da buttare. Bisogna essere anche onesti fino a fino a settembre sembravamo in corsa, eravamo in corsa, Ventura aveva fatto un lavoro discreto, poi qualcosa si è inceppato. Senti, quella maledetta partita al Bernabeu. Pier, ci sono molti ascoltatori che adesso vorranno dare sfogo, diciamo, al loro stato d'animo. Il numero verde è 800 24 00 24, fino a mezzanotte potete chiamare. Luigi da Pistoia, che ha avuto molta pazienza. Ciao Luigi, eccoci. Ciao. Ecco, prego. Come stai Luigi? Sì, no, niente. Sì. Bene, attesa. No, volevo dire la mia, che secondo me Ventura non è che c'entri proprio di tanto. Sì, è vero, il tecnico della nazionale avrà le sue colpe, però abbiamo anche un vivaio di giocatori che non è così eccellente rispetto a un po' al calcio italiano in questo momento, come tutta la condizione dell'Italia anche a livello, diciamo, economico e politico. Bisogna un po' rifarci dalle basi, secondo me, in tutti i sensi, sia nello sport che nel resto. Sì, è da lì che bisogna ripartire, perché prima parlavo impropriamente, me ne scuso, però anche l'emotività di Ground Zero calcistica è di fatto quella è, cioè non ho cambiato la mia idea. Lo shock sportivo l'hai definito lo shock per sportivo, l'Italia. Vabbè, insomma, perché è così, insomma, emotivamente siamo scossi, come diceva giustamente Pier, certo. Molti di noi non hanno mai vissuto adesso un'esperienza così. Non ci arriviamo neanche con la testa ad arrivare a un mondiale, a vedere un mondiale senza l'Italia. È un'esperienza che nella vita ci manca, poi si prova tutto, per carità. Anche Capuano, che è il più giovane della batteria, no? Se la gioca con Pardo, insomma, insieme alle scaline. Si prova tutto nella vita, e quindi dopo aver visto, noi abbiamo visto un europeo senza l'Italia nel 1992, vedremo un mondiale nel 2018 in Russia. Io ribadisco, evidentemente noi siamo fuori per colpa nostra e quindi non dobbiamo cercare da nessun'altra parte la colpa, ed è tutto il prodotto di una catena di errori che da questa sera, da domani, verranno ricostruiti, analizzati centimetro per centimetro, cadranno delle teste, perché è giusto che sia, la prima è quella di Ventura, perché non si può sopravvivere a un'eliminazione prima di arrivare addirittura al mondiale, non sarebbe nemmeno giusto, esiste una meritocrazia, Ventura ha sbagliato, si è dimostrato inadeguato e io mi aspetto anzi che Ventura, che non ci ha ancora messo la faccia, faccia il passo di andare davanti alle telecamere a fare quello che fece Prandelli a Natale in Brasile nel 2014, quindi ad assumersi le sue responsabilità e a dimettersi. Detto questo, io chiarisco, perché con Pier prima non ci siamo sentiti, deve essere anche chiaro che sui 180 minuti di questa doppia partita va avanti una squadra che secondo me non l'ha pienamente meritato, perché la doppia partita non ha mai detto che la Svezia è più forte di quest'Italia, però, di quest'Italia con mille limiti. Stasera non esiste che la partita finisca 0-0 e la Svezia in due partite ha fatto un contropiede, un mezzo tiro e Buffon ha fatto un'altra parata. Però qualcosa è mancato. Però non abbiamo, è vero, infatti secondo me era una doppia sfida che poteva finire anche a nostro favore, però la differenza da mettere sul piatto in queste due partite doveva essere di più, perché ce n'è di più. Sì, ma hai perfettamente ragione, Pier. Poi alla fine ti ci sei ridotto tu in questa situazione, non ti ha detto bene, certamente poi non ti ha detto bene. Oggi c'era un rigore per te, ma c'era un rigore per loro, potevi stare 1-1 al ventesimo, a quel punto, vabbè, solo 1-1 al ventesimo era finita, e dovevi fare due gol. Oggi ci siamo sentiti, gli ascoltatori di tutti i convocati hanno sentito, io ero pessimista da oggi, ma non perché... Sì, era già tutto vestito di nero, Carlo, all'inizio della giornata. Nero perché snellisce, no? quando mi avrò la maglia rosa dell'arbitro mi vesto quel così. Un bel fucsia. Però ero pessimista da oggi, e perché la china presa da questa nazionale autorizzava un certo pessimismo. Adesso nessuno buttare il sasso, bene, lo butto io. Io avrei dimissionato Ventura dopo la partita con la Spagna e avrei fatto la stessa cosa estrema dopo la partita andata in Svezia, perché... Perché è chiaro che io non ho mai visto una situazione di questo tipo con un commissario tecnico che, insomma, lo sappiamo tutti, è inutile nascondersi dietro a un dito, è stato esautorato il giorno che è stato chiuso fuori dalla porta dalla squadra, e da lì in poi le cose sono andate sempre peggio. Dunque, una situazione surreale, paradossale. Insomma, ragazzi, posso dire una cosa? Premesso che non è né Totti né Del Piero, uno come Insigne non può giocare 15 minuti su 180, dai ragazzi. Infatti anche un ascoltatore dice: spiace per Ventura che è un signore, però Bonucci non l'ho convocato io. Insigne rischia di diventare un altro caso Baggio, dice. Ragazzi, Insigne che per me non è, ripeto, un talento, cioè non è un fenomeno conclamato del calcio italiano, però è sicuramente il giocatore offensivo di maggiore talento, di maggiore imprevedibilità non può giocare 15 così poco, minuti. Dici. Se gioca 15 minuti su 180 vuol dire che tu non hai messo nelle condizioni il tuo principale talento di poter dare un contributo. Sì, poi facciamo pure i numerini, se volete, cosa che io cordialmente detesto. Però voglio dire, anche El Shaarawy, che è entrato nel finale di partita, mi è sembrato uno che ha dato un minimo di scossa comunque a questa squadra, ha avuto anche una gran palla gol. E allora, se diciamo, facciamo giocare quelli in forma, spiegatevi voi, che siete bravi, perché gioca Gabbiadini, che praticamente non si è mai visto e che sta giocando in Inghilterra e in Southampton, peraltro bene. Spiegatemi perché gioca Jorginho, che peraltro nel primo tempo ha giocato bene, poi in centrocampo a due, che fai? Ma Jorginho ha giocato bene. Ma... Solo che giocatori Jorginho di Napoli sono anche bene, condizioni, ma... però in ma questa Jorginho, squadra che ragazzi, c'entra? Jorginho, zero presenza. Ragazzi, poi sentiamo anche gli ascoltatori, che sono molti in attesa. Sì, L'8-0-0-24-0-0-24, per esempio. Mario da Teramo, cosa da dire su questa partita? Mario? Sì, buonasera. Ciao Mario. Io volevo fare due considerazioni, ma quello che volevo dire è stato già affrontato. Ah. Primo, perché Insigne non ha giocato, poi sinceramente forse era l'unico che poteva sperare o provare a saltare l'uomo e a creare qualche sovrannumero, primo. Seconda cosa, non ho capito perché Ventura ha convocato sempre Der, che nell'Inter ha giocato quando... al massimo 5 minuti e non ha mai convocato Balotelli, per esempio. Balotelli è comunque un capitale del calcio italiano e a Nizza sta giocando bene. E poi un'ultima cosa, un po' che è defilato, e questo è il livello del calcio italiano, perché noi quando giochiamo in Europa con le nostre squadre, la Juventus, la Roma e il Napoli, che stanno facendo bene, se non benino forse il Napoli, hanno molti giocatori stranieri più forti, per cui però, il livello del calcio quindi vuol dire l'ascoltatore che sono meglio i giocatori stranieri? No, però il discorso, allora abbiamo fatto l'altro giorno, poi è chiaro che questo sarà un discorso di largo consumo, però non è che, ripeto, nel Bayern Monaco siano solo tedeschi, nel Manchester United o nel City siano solo inglesi, nel Barcellona siano solo spagnoli, ormai la globalizzazione catalani, anche nelle squadre del Real calcio, Madrid siano solo giocatori di Madrid, insomma questo vale, è un discorso che vale un po' per tutti, quindi è certamente vero, però non è secondo me la spiegazione di livello assoluto, insomma. Vogliamo sentire anche Matteo da Pavia, vi ricordo il numero verde, fino a mezzanotte siamo insieme anche con i vostri commenti, con le vostre sensazioni. 800 24 00 24, a te Matteo. Sì, buonasera. Buonasera, guardate, una sofferenza gigante oggi vedere l'Italia. Cosa hai fatto tu? Appena hai visto che proprio non c'era speranza, che hai fatto, Matteo? E soprattutto quando l'hai persa la speranza, Matteo? È partita la preghiera facile. Con tutti, non fa niente, neanche un miracolo. Quando hai perso la speranza? Avevi il rosario, per la cronaca. No, ma io fino alla fine, guardi, proprio speravo in Buffon. Con i Buffon ci facevano anche il film, ci facevano. Invece niente da fare. No, invece più seriamente, secondo me, due cose. La prima è, ci hanno negato, come dire, un intrattenimento estivo che era gratis per tutti, e il mondiale. Poi la seconda cosa è, l'Italia quando gioca è ancora una delle poche cose capaci di unire persone con credo politico diverso, amico mio, gente che così viene da posti diversi. A me il dispiacere grande è quello, poi, cioè, non è... niente, solo questo volevo dirti. Sì, grazie. no, ma è verissimo, Robin. Grazie, Matteo. Insomma, sociologica vera, mondiale, certo, è una cosa che unisce. Sì, ci hanno tolto questo, questa forma di unione, ma che vuoi fare? Cioè, di divertimento, di digestivo gratis, effettivamente. Sì. Gianluca da Firenze. Marco Bellinazzo, scusami Gianluca, c'è il nostro Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che anche lui era lì presente allo stadio come Dario Ricci. Marco, che ci puoi dire, Marco? Sì. Beh, devo dire che dallo stadio è stata deprimente. Stare per 25 ore in orario. Ti sentiamo male, Marco, però, capisco che sei emozionato, probabilmente avvilito di questa sconfitta. Anche il telefono piglia male. Ci riproviamo. Si è sconfortato anche il telefono. Allora, Gianluca da Firenze, il numero verde 800 24 00 24. Gianluca. Allora, buonasera a tutti. Ciao. Delusione più totale, cioè, la cosa che ci si crede. Due cose solamente. Allora, vabbè, l'abbiamo già detto, comunque, perché non ha fatto giocare dall'inizio, insomma, Insigne, e poi c'era anche De Rossi, che insomma stava lì, poteva anche sfruttare quell'altra situazione. Ma a prescindere da questo, abbiamo una bellissima Italia, sono stati bravi, diciamo così, tra parentesi, però naturalmente cioè sinceramente non si può giocare con un muro di gomma, hanno fatto il catenaccio dall'inizio fino alla fine, rilanciavano le palle e buttavano fuori, cioè capisci, a loro gli interessava solamente difendere, non hanno attaccato minimamente perché avessero non giocato, interessava. Sì, di Carlo. Gianluca, no, poi condivido con i miei abituali interlocutori Pard e Giovanni Capuano, avessimo giocato con noi così in Spagna a Madrid, magari non sarebbe successo questo casino, questa catastrofe, invece andare là con due centrocampisti. Poi è chiaro che hanno sempre ragione gli assenti e che del senno di poi sapete bene. Molto bene. Pierluigi, volevi commentare anche tu? Pardo? Ma no, ragazzi, siamo senza parole, dai, siamo senza parole. Io, è chiaro che adesso la tentazione dei processi sommari è forte e a me non piacciono i processi sommari. Ventura non è diventato improvvisamente una pippa, scusate il francesismo, o una cattiva persona, però è evidente che in questi ultimi mesi abbiamo perso il controllo, lui ha perso il controllo di questa formazione. Insomma, io oggi l'avevo detto, insomma l'avevo fatto capire, ma si può andare a giocare una partita così con Jorginho, che non aveva mai giocato in questa squadra e che fino a un mese fa veniva definito come un giocatore lontano dalle idee del CT, e Gabbiadini, con Gabbiadini che era uno completamente fuori dalle posizioni, con Florenzi in un ruolo che non è suo. No, adesso sinceramente ti ripeto, io sono un po' combattuto, perché io a Ventura voglio bene, lo considero una bella persona e non cambio idea certamente oggi, però lo considero una bella persona, però bisogna pure analizzare le cose, errori tattici, che negli ultimi due mesi c'è stata un'involuzione clamorosa, che c'è stato un condizionamento prima da parte dei senatori, probabilmente perché si è presa quella strada lì e vabbè, si è presa quella ricordiamo agli ascoltatrici e agli ascoltatori che non sapessero chi sono i senatori fuori dal Parlamento italiano, che Buffon, Chiellini, Barzagli, quelli proprio i grandi vecchi titolari, che avevano l'ultima chance. Si è puntato e aveva una sua logica, per carità, aveva una sua logica nel momento della difficoltà, si è puntato sulla difesa a tre, che era quella che piaceva di più, che piace di più, ma non per motivi diciamo di convenienza, per motivi di essenzialmente di quieto vivere, di rendimento dell'eccellenza della nostra squadra. Paradossale, si è cominciati con quel modulo e si è finiti tutte e due le volte con quello che pensa di più avventura. Io no? Penso che non aver messo Insigne, ci metto anche Verratti, che sono i due principali talenti al calcio italiano, di prospettiva e di talento, appunto, non averli messi nelle condizioni di poter fare il meglio, insomma, sia un errore. Anche se questo ascoltatore scrive al 349-238-6666, ma potete continuare a chiamare l'800-24-0024, dice questo ascoltatore, ma cosa cambiava Insigne? È un buon giocatore, ma non può fare la differenza, manca la squadra, stasera all'andata non avremmo perso. Una partita come questa, una doppia partita come questa, 180 minuti come questi, sono decisi da episodi. Bravissimo. C'è una donna, Lorenza, quindi... da Milano, scusatemi. Lorenza Uberà. Cara Lorenza, buonasera. Io faccio un intervento che sicuramente sarà, come dire, maledetto da tutti gli uomini che sono tecnici, che sanno tutto. No, perché io... da noi no, glielo prometto. Io dico solo che sono del 57, per cui è da quando sono nata che seguo le partite della nazionale, anche se non mi intendo assolutamente di calcio. Hai fatto bene a chiamare proprio per questo. La nazionale mi innamora invece, quindi stasera ho cantato l'inno, ho fatto le castagne, un novello, insomma, cose un po' così. Ma io mi domando, questi ragazzi si allenano o vanno dal parrucchiere? Forse perché hai visto El Shaarawy, la pettinatura di El Shaarawy, molti ormai sono impeccabili. Lorenza migliore in campo per tutto quanto, però si allenano. Io l'amo a prescindere, però si allenano e... Non è questo lo sport professionistico, è uno sport di dettagli, nessuno vuole perdere e nessuno quando perde è perché non ha lavorato, non si è allenato o ha fatto meno degli altri, a parte situazioni patologiche. È uno sport comunque basato, soprattutto il calcio che nella sua natura vive gli episodi, basato sulla capacità di approfittare al meglio delle occasioni che riesci a creare. Ma è chiaro, questo è chiaro. 110%. Bam, è un lampo. Sentiamo anche Giovanni, qualche considerazione da fare, io credo, su quanto stiamo dicendo. Giovanni, tra l'altro c'è un ascoltatore che scrive: abbiamo assistito a questo fallimento con una buona seduta sui divani IKEA. Che tristezza, dice. No, sapete che IKEA è svedese. Giovanni, tu eri su che divano eri, Giovanni? No, Giovanni è in un imbuto in questo momento, mi sa. Sta ancora cucinando, che sta facendo? Allora, adesso invece... No? Sì. Abbiamo usato questa metafora introdotta dal nostro amico Crosetti, no? Sfidi Italia che siamo partiti così prima ancora della partita di andata. Tra tasselli e brugole del 12 non c'è riuscito di montare questo scaffale su cui appoggiare il mondiale. Purtroppo. E poi, domanda, dice questo ascoltatore, la disfatta del Brasile e dell'Italia hanno degli aspetti in comune, dice Max. Il Brasile ai mondiali in casa, quella partita con la Germania. Non specifica Max, in effetti. Sì, io immagino possa essere quella lì, però quella è stata una partita, questo è stato comunque un cammino. Differente, difficile fare paragoni. Il comune denominatore è il dolore e la sofferenza. Facciamo così, ecco. Poi per il resto due figuracce, insomma. Brizio da Ancona. All'800 24 0024, numero verde che potete continuare a fare fino a mezzanotte. Brizio? Poi recuperiamo Marco Bellinazzo tra poco. Brizio? Sì. Sì, mi sentite? Sì, sì. Sì, buonasera, grazie per l'invito. Volevo fare due considerazioni, una molto provocatoria. Se vado indietro a guardare un po' le partite fatte dall'Italia, abbiamo sofferto in certe situazioni, ricordo con la Macedonia, se non sbaglio, da 1-0 a 2-1. Cioè è sempre stata 1-0, 2-1, passata in svantaggio. Quindi secondo me questa nazionale, visto anche il campionato italiano che è molto agguerrito, sarebbe arrivata ai mondiali ancora peggio. Per cui la mia provocazione è stato un bene uscire adesso, perché permetterà di partire da zero e fare veramente considerazioni, perché al mondiale avremmo fatto una pessima figura, il mio parere. Però almeno provarci, dice Carlo. Sì, a me andarci. Brizio, avevi una seconda argomentazione? Mi dispiace molto per tutto l'indotto. Per me, io mi sono scese le lacrime senza piangere, quando il portiere ha parato quel tiro di Florenzi lì sul fondo, ho detto niente, oggi non andrà per niente. Quindi sono sceso in modo autonomo. L'indotto, mi spiace non vedere il mondiale in Russia con l'Italia, poi l'indotto faremo i nostri conti. E indotto se ne intende Marco Bellinazzo, che non so se è ancora in collegamento, abbiamo tentato. Marco, ora ci sei? Ora mi sentite meglio? Ora sì, finalmente. Proviamo. Siamo allontanati dal partito e dalla tristezza cupa che è uscita dallo stadio. Due considerazioni, se mi permettete. La prima, da testimone, da semplice spettatore, c'era una sensazione proprio di impotenza fin dai primi minuti, come se tutti sapessero che avremmo potuto giocare per giorni e quel pallone non sarebbe entrato. Non so, magari è una mia sensazione, però mi è parso che c'era già questo senso di sconfitta latente. E poi soprattutto invece, insomma, bisogna ora capire da farsi, è presto, diceva prima bene Pedro Pierre, insomma, i processi sommari non servono ed è inutile farli, però è evidente che come altri paesi, a partire dalla Germania, hanno utilizzato determinati momenti difficili della loro storia calcistica sportiva per rifondare il movimento, forse è il caso di farlo. Noi siamo stati in qualche modo sviati da due europei che tutto sommato non erano stati così negativi, però noi sono 15 anni che non riusciamo a mettere insieme una squadra decente, insomma siamo usciti due volte ai gironi e malamente nel 2010 e 2014 e oggi stasera è andata così, insomma sì. E credo che bisognerà capire molte cose. L'anno zero, Marco, cioè ripeto, da questo risultato così negativo non puoi che uscire avviando un processo di rivoluzione sportiva, di rivoluzione. Il problema è capire chi la farà questa rivoluzione, cioè quali persone, a chi affidarci. Adesso servono anche delle prese di posizione concrete, cioè chi si sente responsabile secondo me deve fare un passo indietro. Non so se c'è ancora Giovanni Capuano, non so se c'è ancora Pierluigi Pardo. Giovanni, tra l'altro vedo un'agenzia adesso, Shock Italia Buffon, dice come me addio tutti i veterani. Per ragione anagrafica, cioè non è che ci sono molte alternative. Giovanni Capuano. Ci sei, Giovanni? Vabbè ragazzi, ci sono da mezz'ora. Comunque il tema è molto semplice. Adesso stasera ho sentito cose, voglio dire, evocare Balotelli, lamentarsi che abbia giocato Jorginho e due giorni fa, siccome non aveva giocato Jorginho, Ventura era un incapace, o altre cose, ripeto, poi questo è ovviamente il momento dell'amarezza, dello sfogo, e ci sta dentro tutto, e quindi ci sta dentro anche che ognuno abbia la sua ricetta. E io credo ad esempio che sulla partita di stasera ci sia poco da dire, non sono d'accordo neanche con Marco Bellinazzo. non è vero, l'Italia questa sera il gol se l'era anche costruito, e poi il calcio è fatto di mille cose e tu il gol non lo fai, e questo non significa che non si debba aprire un processo. Sottolineo che siamo alle 22:32 e 23:32, perdonami, e Ventura non ha ancora parlato e probabilmente non parlerà. E come non parlerà, Gio? È il modo peggiore. No, ma credi davvero che non parlerà? E alla Rai hanno detto che quasi certamente non parlerà. Tanto è adesso stato lo shock. Vedremo se arriverà la conferenza stampa, però insomma intanto la faccia si era messa Buffon e Ventura non si è presentato alle telecamere della Rai. Allora datemi una lettura, Giovanni. Non c'è da dare una lettura, c'è un momento umano difficilissimo, però le grandi responsabilità portano anche a dei grandi doveri, e il dovere è quello di mettersi la faccia e anche di dire cose spiacevoli e scomode. Appunto. E Ventura sta mancando molto. Noi sappiamo dall'estate del 2016 che dal punto di vista comunicativo probabilmente è un uomo inadeguato alla nazionale. Il progetto era quello di mettergli sopra il cappello di Marcello Lippi. Al di là del risultato, questa uscita di scena secondo me conferma quella lettura che era già stata fatta nell'estate del 2016. Pier, ma quanti anni ha Ventura? Tu che dici che lo conosci bene. No, 69. Credo fra l'altro, adesso se non mi danno informazioni false ai miei vicini di divano e di cena, credo si stia dimettendo, insomma, sia praticamente ufficiale che si dimetta, ed è comunque un gesto che... Inevitabile. A chi l'ha detto, Pier? Scusa, credo stiano guardando la Rai, spero non stiano facendo, che sono un gruppo di buontemponi, però non fino a questo punto. È in diretta sulla Rai. In diretta sulla Rai, mi chiedono chi è Tirelli, Stefano Tirelli, è un preparatore tra... Vabbè, sì. E credo insomma che arrivi a minuti la notizia. Giovanni ha detto no, probabilmente non parlerà, sarebbe clamoroso non parlasse in questa giornata. E voglio condividere sempre con Capuano la considerazione che facevamo prima. In questo momento Pier diceva: ma chi, l'ascoltatore, chi deve prendere queste decisioni? Beh, queste decisioni vanno prese dai diretti interessati. E comunque sui vari social network, su Twitter, sono un terrazzo, fra l'altro anche prendendo freddo, ma non importa, perché va bene così, a Roma fa abbastanza caldo, e Ventura si è dimesso, insomma, ce ne sono tanti, quindi vi prego di fare, ecco, breaking news, Ventura dovrebbe essere dimesso, insomma, fate anche voi le vostre verifiche, Giovanni, tu hai altre notizie, Giovanni, su questo? Ecco, rimedio di Rai Sport, pare che Ventura sia dimesso da Gettino della Nazionale. Sta maturando in questi istanti le dimissioni di Ventura nelle mani del presidente federale Tavecchio. Per il momento non si ha notizia di scelte simili da parte di Tavecchio, ma su questo, insomma, poi cosa ti un altro tema. No, io mi aspetto che non si dimetta. Tavecchio. Allora, ragazzi, abbiamo una pausa, scusate, adesso. Poi c'è Paolo da Napoli al numero verde 800 24 00 24, che potete continuare a fare per esprimere la vostra lettura, la vostra amarezza, insomma, le vostre considerazioni su questa partita. Siamo insieme sino a mezzanotte. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Dispiace per non aver, non per me, dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante, e di conseguenza niente, questo è l'unico rammarico che ho. About things we've gone through. Un affranto Buffon avete sentito, con l'Italia ormai fuori dai mondiali. Stasera, con questo effetto notte speciale, abbiamo seguito gran parte della partita, ed è finita così. Lo avete sentito, il portiere che ha deciso insieme ai veterani della nazionale, insomma, a questo punto di lasciare la nazionale. C'è sempre con me Carlo Genta e poi c'è Pierluigi Pardo, sapete, tutti convocati tutti i giorni, lo sentite su Radio 24, e poi i vostri commenti al numero verde 800 24 00 24. Vorrei sentire Carlo, Paolo da Napoli, che era già in attesa. Paolo, Sì? Sì. Buonasera. Oramai avete detto un po' quasi tutto praticamente. Io volevo fare semplicemente qualche battutina, niente di che. Purtroppo cerchiamo di girare la vita. Mancava solo il massaggiatore della squadra in campo. Poi praticamente ha fatto ruotare tutte, posso dire il tema, tutte le immondizie, più immondizie che c'era. Esagerato, io sono napoletano e non sono pentito della vendita di Gabbiadini, onestamente. Non so che l'abbia messo a fare in campo, tenendo poi in panchina uno come Insigne, che insomma poteva dire qualcosa. Adesso è un momento dell'emotività. Io giro ai miei c'è Pierluigi Pardo che deve andare tra poco. Deve andare per Pierluigi Pardo. Scusa, no, Paolo, ma Gabbiadini non è un cattivo giocatore, è in assoluto. Però ribadisco il discorso che facevo prima. Cioè, comunque sia, questo è il 3-5-2 di oggi, è un 3-5-2 impensabile. Poi è ovvio che la partita poteva anche girare in maniera diversa. Non siamo stati fortunati. Questo rimane, però il 3-5-2 di oggi non è. No, non è proprio nemmeno. Quando ieri si è saputa la formazione. Pierluigi, a proposito di formazione, c'è Salvini, un'agenzia stellata adesso, che dice: Shock Italia, troppi stranieri, ecco il risultato. E poco fa si vantava di essere l'unico italiano a non aver visto la partita. Posso permettermi di dire adesso, premesso che ognuno fa quello che vuole. Questo è un momento, per quanto il calcio sia una cosa piccola, perché poi non cambia le vite di noi tutti e dobbiamo imparare che i drammi della vita sono altri, e ve lo dice gente che si occupa di calcio, però insomma strumentalizzare adesso queste cose per fare altri ragionamenti mi sembra quel dibattito lì è serissimo, c'è grande rispetto per tutte le opinioni, Salvini può avere ragione o torto a seconda dei punti di vista, però che 10 minuti dopo la fine della partita nazionale questo sia il commento, lasciamo stare. Però io volevo chiedere anche conferma a Giovanni che no, se Giovanni lo riprendiamo tra poco. Però c'è il comune amico mio di Pardo, di Cruciani eccetera, Guido Bagatta, che ha sottolineato opportunamente, mi ha mandato un WhatsApp ricordando, ma l'avevamo detto nei giorni scorsi, che non c'è bisogno delle dimissioni di Ventura, perché il contratto prevede l'allontanamento l'allontanamento automatico, la risoluzione del contratto in caso di mancata qualificazione ai mondiali. Opportunamente è così, no? Sì. Chi è? Allora, c'è questo ascoltatore che ricordava prima anche Cristian Goldoni. Vi ricordo che l'ultimo mondiale a cui l'Italia non riuscì a qualificarsi era proprio in Svezia. Prima abbiamo sentito anche Jabba, una maledizione svedese. Marco Bellinazzo, tu che eri lì allo stadio a San Siro, ci sono varie. Dobbiamo andare Pardo o qualcuno? Pierluigi, devi andare? No, sto qua, sto al caldo. Ecco, no, volevo chiedere a Marco Bellinazzo, siccome diversi ascoltatori dicono: ma è vero che De Rossi si stava alzando, era come doveva fare un cambio, poi lui ha detto c'è stato una specie di bisticcio, è rimasto seduto perché dice no, bisogna vincere, è vero questa cosa che stava preparando, riscaldando, Marco? Non sono riuscito a vederlo, ma ti assicuro che c'era grande confusione intorno alla panchina, e Ventura era un uomo confuso. Lo è forse stato in particolare dopo la sconfitta con la Spagna, e la colpa della federazione non averlo capito, non aver cercato in qualche modo di porre rimedio. Io penso al fatto che la Croazia le partite decisive ha cambiato allenatore, si è qualificata, non so se si poteva pensare a una soluzione del genere. Sì, ora, sarebbe stata estrema, magari anche se vogliamo impopolare, però sarebbe stata una decretazione d'urgenza che in una situazione come questa secondo me andava fatta, e ribadisco il mio pensiero, perché è una situazione così paradossale, io non l'ho mai vista, non so Pardo ai 1000 mondiali che ho partecipato, nei suoi ricordi di todo il mondo. Siamo bisogna essere onesti, le cose che dicevo fino a oggi pomeriggio le dico ancora adesso. Era sicuramente un girone complicato, era un'anomalia essere nello stesso girone. Scusa Pierpaolo, Pierluigi, se ti interrompo, c'è De Rossi, visto che eravamo appena citato, che sta per parlare a Rai Sport. Sentiamo cosa dice. Per noi calciatori che abbiamo fatto parte di questo biennio c'è poco da dire, ci sarà tanto tempo per analizzare tutto. La federazione ha un compito importantissimo adesso, ripartire da una delusione così cocente. Credo che l'unica cosa che posso dire, che è anche molto banale, poco tecnica, poco tattica, è che si riparta dallo spirito che i miei compagni hanno messo in campo oggi, dalla voglia di continuare a vivere questa avventura che un po' ci ha contraddistinto in tutti questi, quanti sono, 12-13 anni di mia permanenza in nazionale, e niente, si ripartirà come siamo ripartiti da altre delusioni cocenti, questa è parecchio forte, però al di là di tutto quello che è stato sbagliato tecnicamente, tatticamente, fisicamente, questo insomma, ripeto, non c'è motivo adesso di parlarne, almeno da parte mia, non meritavamo di uscire per quello che si è visto in questi 180 minuti, complimenti a loro perché hanno fatto la loro partita come era giusto che fosse, ma meritavamo qualcosina in più, c'è da lavorare, ci sono tantissimi giocatori giovani che devono spiccare il volo, no? Come si dice in gergo, e che già stanno facendo benissimo nelle loro squadre, quindi si deve a tutti i costi ripartire da loro. Senti, che dici, Pierluigi? Quindi... Sì, beh, ha ragione, De Rossi è sempre uno molto lucido e molto saggio, molto onesto, anche molto diretto. Insomma. Ma perché è rimasto in panchina? Tu l'hai capito, perché non stava bene, è vero? Beh, De Rossi onestamente è un giocatore che sappiamo, insomma, è forte, ma è un po' avanti con l'età, magari ci stava, secondo me, il fatto di ruotarlo, perché comunque erano due partite in tre giorni, io non credo sia stata una vergogna questa, anzi mi pare che a un certo punto, quando c'è stata l'ipotesi di spiegarsi in campo, lui stesso abbia detto che forse c'erano soluzioni un pochino più pronte, sì, che è come adatto, dire, no? Che è come dire vai, adesso vai te, che a me viene da ridere, no? Parafrasando. Vuol dire anche semplicemente, insomma, che magari... Beh, non so, io do una lettura un po' più maliziosa della tua, Piera, ma insomma, io uno come De Rossi, lettura... visto che non ha giocato, verrà te la squalificato, visto che mi proponi... Ma Giorginio non ha giocato male, cioè, no, ma per carità, però uno come questo mancati, non rinuncio. Dove siamo mancati completamente nel gioco offensivo, se dovessimo riassumere la partita di oggi, perché dietro non abbiamo rischiato nulla, però penso che il calcio non è compartimenti strani, quindi è ovvio che poi alla fine tutti i reparti sono correlati, però... Se dovessimo valutare la partita di stasera, noi oggi non è che abbiamo fatto una brutta partita sul piano difensivo, o noi abbiamo costruito tanto ma male, cioè abbiamo fatto tanto possesso palla, ci siamo avvicinati tante volte alla rigore avversaria, abbiamo avuto tantissimo dominio del possesso, però poi alla fine... Sì, una partita comunque è stretta parente di quella dell'andata. Ancora il numero verde, 800 24 00 24, poi subito Giovanni Capuano. Andrea da Salerno, qual è la tua sintesi? Sì. Salve, buonasera, complimenti per la trasmissione. Ciao Andrea. Volevo dire solamente una cosa, forse questa disfatta è iniziata quando al posto di Antonio Conte abbiamo chiamato Giampiero Ventura, non so perché, forse non è molto carismatico come Conte e forse a livello internazionale non ha mai giocato qualche partita. Come si diceva prima. Ma Conte è andato via. Quindi una soluzione quindi bisognava trovare. Giovanni! Giovanni, vuoi commentare? Ma guarda, intanto bisogna ricordare che Ventura arriva all'Italia anche perché in quel mese dopo la fine del mondiale dell'Europeo del 2016, e Pier lo sa benissimo, qualcuno preferisce dire di no. Quindi c'è un discorso di budget, c'è un discorso di investimenti che la federazione riduce dopo l'importante sforzo fatto per portare Conte sulla panchina nel biennio dell'Europeo. Però c'è anche la verità che c'era la prospettiva di un girone con la Spagna che quasi certamente avrebbe portato lo spareggio, di un nazionale di cui si pensava che il ciclo fosse finito e con il rischio di appiccicarsi addosso il marchio dell'infamia e dell'eliminazione, cosa che poi è avvenuta questa sera. Adesso, senza stare a fare i nomi, diciamo che prima di arrivare a Ventura Tavecchio aveva bussato ad altre porte, più prestigiose, anche con maggiore esperienza, io non dico migliori, però certamente con un profilo più adatto rispetto a quello di Ventura, che prima di questa avventura, perdonatemi il gioco di parole, sulla panchina nazionale aveva messo il naso fuori dall'Italia per partite internazionali, ho letto oggi una statistica, credo 7 volte in tutta la carriera. La scelta è stata sbagliata. Ecco, è stata sbagliata, poi dopo la scelta non era solo quella, era di affiancare Lippi, e in quello la Federcalcio ha sbagliato, perché è clamoroso che non si conosca il regolamento che la Federcalcio stessa ha scritto e che ha negato poi a Lippi la possibilità di lavorare da direttore tecnico delle nazionali. Certo, non è detto che si dovesse fermare lì, cioè si poteva trovare un altro come Lippi da affiancare a Ventura per provare a sopperire a questa sua carenza di esperienza, a questa sua debolezza, e invece ci si è incartati lì, i primi risultati non sono stati negativi e poi dopo da settembre in poi è stata tutta una discesa. Dice questo anche De Rossi lascia la nazionale intanto. non vedo molte alternative. Sì. Anche lui, come si diceva, i veterani, lo aveva annunciato anche prima Buffon. Dice questo ascoltatore, ritorna sulla questione degli stranieri, ma se guardando una partita del campionato si nota che ci sono 18 stranieri su 22 in campo, da dove vuole che si prendano i calciatori per la nazionale? Andiamo subito da Massimo, che chiama da Bergamo, al numero verde 800 24 00 24. Massimo. Sì, buonasera, buonasera, complimenti alla trasmissione. Io devo fare un commento un pochettino più duro e un pochettino più diverso. Prego, dico semplicemente una cosa: non c'è sentimento nazionale, perché se ci fosse sentimento nazionale ci sarebbero investimenti a livello della federazione diversi, ci sarebbe un interesse diverso per arrivare ai risultati. Secondo me i club qua hanno la prima parola. E poi quando ci sono le convocazioni arrivano stanchi, non si allenano, non fanno quello che devono fare, i risultati sono questi. Degli scansafatiche, quindi, no, Carlo? No, non c'è sentimento nazionale. Grazie, perché tutto il sistema, ma mi sembra un discorso un po' complicato, lo lascio commentare a Pardo Capuano, ragazzi, se ne ha voglia. Anche il discorso sugli stranieri, ragazzi, i grandi campionati vivono di stranieri, cioè non è che in Inghilterra o in Germania... Non è che nel Bayern Monaco siano tutti tedeschi, tanto per essere chiari. Quindi, come si diceva prima. Ma sì, appunto, quindi non è... Io capisco che il tema è molto popolare, anzi, diciamo, è molto populista. È anche, appunto, oggetto di strumentalizzazioni addirittura politiche. Ma non è questo, il punto non è questo. Il punto è che noi abbiamo sbagliato delle partite. Abbiamo perso completamente il controllo della situazione. Il CT, che è una brava persona, è un buon allenatore nel momento più... delicato della sua gestione, ha perso il controllo dal Bernabeu in poi, non è stato neanche fortunato e complice una formula sicuramente non semplicissima, ha ragione Giovanni a ricordare che altri avevano rifiutato questa chiamata della nazionale perché questa volta qui era più rischiosa di altre, e ce la andiamo a casa, punto. Non è da qui da vecchio che ha mille difetti, e certamente insomma giusto anche che venga sottoposto a critiche, è lo stesso che aveva scelto Conte. Allora, sì, no, l'abbiamo notato fenomeno, prima. L'abbiamo non notato è che era prima. Un fenomeno quando ha scelto Conte, no, che è diventato un brocco quando ha scelto Ventura. Esatto, l'abbiamo ricordato prima per dover delle decisioni in relazione a quello che puoi fare. Però, io sicuramente... volevo chiedervi un'ultima cosa, perché poi mi sa che mancano chiudere. Due minuti. Mancano sì, poi c'è Eugenio da Milano, Matteo da Rieti. Un'ultima cosa, 30 secondi a testa con Pardo Capuano, Giovanni come immagini futuro, Pierluigi come immagini futuro, così a botta calda. Giovanni. Guarda, immagino che si riparta da un settore giovanile della nazionale che comunque ha portato al bronzo del Mondiale Under 20 e a una fase finale in cui siamo andati con tante speranze dell'Europeo dell'Under 21. A differenza di quello che pensavamo nel 2016 dopo l'Europeo, forse il ciclo di questa nazionale è finito, ma dietro c'è qualcosa. E invece Pier Pardo? No, io penso che sì, io penso che non sia tutto da buttare, cioè il lavoro che è stato fatto in quest'anno e mezzo, io non penso che il calcio italiano sia peggio di 2 anni fa, io penso che sia meglio di 2 anni fa, nel senso che comunque secondo me si comincia a intravedere giocatori interessanti. Qui il punto è che bisognava fare un mix fra vecchio e nuovo che non è riuscito, ma ripeto, poi alla fine... usciamo anche per degli episodi, usciamo anche per delle situazioni, usciamo perché siamo arrivati malissimo alle partite. Alle Pier, partite scusa, vi do questa notizia. Tavecchio dice mi prendo 48 ore di riflessione. Questo è importante, 48 ore di riflessione, tra 48 ore quindi capiremo. Sapremo il futuro anche in questo senso di Tavecchio, insomma, l'imminente presente. Ci sono ancora gli ascoltatori, ma credo che non faremo in tempo. Vi ringrazio, vi saluto, tanto tutti convocati domani alle 14 con il nostro Carlo Genta, con Pierluigi Pardo, con Giovanni Capuano, quindi avrete modo domani di sbollire ulteriormente, di analizzare insomma questa... tracollo, questa sconfitta dell'Italia che non va ai mondiali. Tempo di salutarci a questo punto, grazie a tutti voi, grazie a Cristian Goldoni, la parte tecnica c'è Filippo Reggi, Roberta Giordano, vi ringrazio per questo ascolto, in questo lungo effetto notte speciale, e ci ritroviamo come sempre domani alle 21.